È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Su Fiat noi riteniamo assolutamente positivo lo sviluppo che sta avendo la vicenda, con la possibilità di un accordo tra le forze sindacali e l'azienda nella direzione di una maggiore flessibilità, e dobbiamo dire che ove questo non dovesse accadere, chiaramente le imprese e gli imprenditori avrebbero buone motivazioni per spostarsi in altri paesi. Quindi ci auguriamo che la vicenda possa avere un esito positivo. Senza fare alcuno sforzo. Grandi polemiche su questa frase di Berlusconi. E tiro al bersaglio su Berlusconi da parte dell'opposizione, dei sindacati, eccetera, eccetera. Non solo su questo, naturalmente, anche sulle frasi pronunciate sui magistrati. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Questa volta l'unica cosa che ho già avuto modo di dire in televisione è che io spiegherò agli italiani di che cosa si tratta, e verrà fuori quella che è la patologia di cui ho anche parlato con cancelliere Merz, che è della nostra democrazia, della presenza di un ordine giudiziario che si è trasformato in potere giudiziario esorbitando da quello che è il suo alveo costituzionale. Eccoci qui, 800 24 00 24. Più tardi sarà con noi, come al solito, anche David Parenzo. Intanto, altre polemiche in casa Partito Democratico invece su questa frase pronunciata ieri durante il telegiornale della 7 da Matteo Renzi. La cruda verità. Io sono dalla parte di Marchionne, dalla parte di chi sta investendo sul futuro delle aziende quando tutte le aziende chiudono. È un momento nel quale bisogna tentare di tenere aperte delle fabbriche, e diciamo anche la verità, è la prima volta nella sua storia che la Fiat, anziché chiedere i soldi degli italiani con la cassa integrazione, prova a mettere dei quattrini per agganciare alla locomotiva America anche Mirafiori e anche la struttura italiana, quindi senza se e senza ma dalla parte di chi crea lavoro e di chi crea ricchezza. E l'intervento di Renzi è stato criticato anche da parte di alcuni dei cosiddetti rottamatori, il senza se e senza ma dalla parte di Marchionne. A parte il merito, in alcuni blog Renzi, e questo è incredibile, è stato ricoperto di insulti. Qualcuno lo ha paragonato addirittura, pensate un po', augurandosi magari che faccia la stessa fine, al sindaco di Firenze Lando Conti ucciso dalle Brigate Rosse. Questo è il clima: se uno dice senza se e senza ma dalla parte di Marchionne, viene additato naturalmente da una minoranza come il simbolo dei mali magari da abbattere. E personalmente sono senza se e senza ma dalla parte del sindaco di Firenze. Primo ospite della serata, Massimo Donati, capogruppo di Unità dei Valori alla Camera. Buonasera. Buonasera a voi, buonasera agli ascoltatori. Come sta? Bene, grazie. Senta, su questa vicenda della FIOM, eccetera, eccetera, oggi c'è anche una polemica che riguarda Vendola, il quale si trovava davanti ai cancelli di Mirafiori, è stato contestato, non si sa da chi, da una minoranza, eccetera, eccetera. Ma al di là di Vendola, nell'Italia dei Valori c'è una spaccatura molto evidente tra la sua posizione e quella, per esempio, di De Magistris e Di Pietro. Una posizione più filo FIOM. Lei, se fosse un operaio di Mirafiori, come voterebbe? Guardi, io ho già avuto modo di dire che la domanda non mi piace, ma non perché non però la voglio rispondere. Però non si sottragga, però. No, io non mi sottraggo mai. Guardi. No, lo so, appunto, per cui... Le rispondo, ma dico che non mi piace solo per un motivo così di di etica, nel senso che è un po' facile da parlamentare, ben retribuito, senza nessun particolare dubbio sul domani retributivo, calarsi così in un attimo nei panni di chi invece ha a che fare con uno stipendio di 1.300 euro. Cioè, comunque, detto questo, per cui voglio dire, io non mi metto nei panni di un operaio della Fiat, ma do un mio giudizio che è politico. E dunque, se fosse un operaio della Fiat? A favore di questa cosa. Cioè, voterebbe sì? Assolutamente sì, credo che sia un accordo pesante, un accordo difficile, un accordo impegnativo per i lavoratori, ma credo che siano condizioni serie quelle richieste dall'azienda per creare le condizioni appunto necessarie per riportare competitività e produttività agli impianti italiani della Fiat. Ecco, lei è molto chiaro, ma può un partito come l'Italia dei Valori, che è un partito comunque il secondo partito dell'opposizione, che si è presentato alle elezioni insieme al Partito Democratico, è comunque un partito che ha consenso in Italia, avere una linea così divisa al suo interno? Cioè, abbiamo delle posizioni molto chiare, il vostro rappresentante, il vostro delegato, diciamo, nel mondo del lavoro era un ex sindacalista, Maurizio Zipponi. Lei insieme ad altri ha una posizione completamente diversa, naturalmente, però molto diversa. Insomma, lei dice esplicitamente: fossi un operaio voterei sì. Quando è che risolverete questa questione? Ma guardi, io innanzitutto non mi stupisco affatto che ci siano queste differenze, non la vedo come una cosa drammatica, nel senso che la sfida della globalizzazione in settori particolarmente competitivi, particolarmente maturi come quello dell'industria automobilistica, sta ponendo delle scelte che non sono scelte facili, sono scelte drammatiche anche per chi le subisce, e non riguardano la possibilità, poi se vogliamo dircela tutta fino in fondo, di fare dell'Europa la locomotiva nella produzione dell'auto per i prossimi 100 anni. Qui cioè, lei dice che una divisione all'interno di un partito su una questione di questo tipo è naturale, è normale? Io credo che per un partito del centro-sinistra dividersi, avere posizioni divergenti rispetto a scelte che mettono in discussione 30 anni di conquiste dei lavoratori, che io credo siano state buone conquiste, ma che in parte devono oggi essere riviste alla luce di una competizione che è davvero sfrenata in alcuni settori come quello automobilistico, è inevitabile, a mio avviso, che ponga considerazioni diverse e anche delle divisioni. È scandaloso che Berlusconi dica quello che ha detto. Quello che a me stupisce sono i partiti che nel centro-sinistra non sentono il bisogno di una riflessione su questi temi e sono monoliticamente compatti sulle posizioni della FIOM. Per esempio Sinistra Libertà. Sinistra Libertà. È normale che Berlusconi sbaglia a dire quella frase che ha pronunciato oggi, oppure fotografa la situazione semplicemente? No, quella di Berlusconi è una frase intollerabile, perché Berlusconi è il Presidente del Consiglio, rappresenta il Governo, rappresenta la sintesi degli interessi di tutto il Paese. Però dice chiaramente quello che succederà, cioè dice se non passerà il sì, l'azienda ha tutto il diritto di fare altre scelte. Non è la fotografia della situazione, non dovrebbe dirlo, non dovrebbe pronunciare questa frase, dovrebbe stare zitto. Non dovrebbe pronunciarla, perché il Presidente del Consiglio di un Paese non può comunque dire che se succede una certa cosa è bene se la Fiat se ne va dall'Italia. Credo che questo sia qualcosa che ha il diritto di dire e di fare la Fiat, ma non ha il diritto di auspicare il Presidente del Consiglio. Sentiamo credo la frase, sia veramente però un'affermazione vergognosa da parte di un governante che dovrebbe avere il compito, che però questo governo non ha mai assolto in tutta questa vertenza, di trovare punti di sintesi e non di allontanare con posizioni ideologiche i punti di sintesi. Però Berlusconi in questo caso ha la sua stessa posizione, Donati, è esattamente la sua posizione, perché lei lo attacca così? Allora, è la sua posizione, lei lo attacca perché è Presidente del Consiglio? Innanzitutto non è la mia posizione. Beh, adesso glielo faccio risentire, però risentiamolo insieme. Su Fiat noi riteniamo assolutamente positivo lo sviluppo che sta avendo la vicenda, con la possibilità di un accordo tra le forze sindacali e l'azienda nella direzione di una maggiore flessibilità, e dobbiamo dire che ove questo non dovesse accadere, chiaramente le imprese e gli imprenditori avrebbero buone motivazioni per spostarsi in altri paesi. Quindi ci auguriamo che la vicenda possa avere un esito positivo. Berlusconi dice l'azienda avrebbe buone motivazioni se dovessero vincere i no per spostarsi. È più o meno quello che dice lei, o no? No, non è affatto quello che lei la seconda parte non l'ha detto. Vabbè, insomma, ma la seconda parte non è da poco. Io credo che Fiat dovrebbe comunque trovare il modo di investire sull'Italia e di puntare sull'Italia. Ma detto questo, ecco, questo è interessante. Nell'ipotesi, scusi un attimo, mi faccio dire una cosa importante, poi rispondo a tutto quello che mi chiede lei. Sì. Ma anche sulla prima parte c'è una differenza non da poco. Io dico il progetto che azienda e sindacati hanno ratificato è un accordo accettabile, però a mio avviso è mancata la seconda parte, questo l'ho sempre detto e lo ribadisco, ed è mancata a mio avviso anche per colpa della FIOM che si è sottratta a questa grande sfida. Cosa è mancata? È quella di completare i sacrifici che l'azienda chiede ai lavoratori con un coinvolgimento dei lavoratori nella governance dell'azienda, perché il modello tedesco, che è quello che un po' sta cercando di importare Marconi in Italia, o si piglia tutto o non si piglia per niente. Ho capito benissimo. Si può pigliare quello che fa comodo. Allora, capire i 20 miliardi del progetto Italia, da dove Marconi li tira fuori, che cosa ci vuol fare, in che tempi, quali saranno i progetti per Mirafiori, quali saranno i progetti per Pomigliano, non sono insulti a Marchionne. No, è Marchionne certo. Che non può pensare di chiedere questi sacrifici ai lavoratori senza anche coinvolgere i lavoratori stessi in questi progetti, e soprattutto senza fare quello che poi è il vero meccanismo vincente del modello tedesco, e cioè quando ci sono periodi di vacche grasse, di vacche magre, si tira tutti la cinghia, ma quando poi lavorando tutti insieme nella direzione della competitività i risultati arrivano, bisogna che gli utili vadano non solo agli azionisti ma vadano anche in trattamenti economici più favorevoli per la posizione di Renzi. Invece la posizione di Renzi è uguale a quella di Berlusconi? Quella che abbiamo sentito prima, ieri, al Tregione della Sette? Io che ne so, lo chieda Renzi. No, così, la sua impressione. La sua impressione. Ha sentito Renzi e Berlusconi. Mi pare che la posizione di Renzi sia molto più vicina a Berlusconi che non la mia. Su questo non c'è dubbio. Senta, Di Pietro avrebbe pronunciato questa frase ai deputati ai deputati dell'Italia dei Valori o a un gruppo di fedelissimi, almeno è stata riportata nei giorni scorsi dalla stampa, a proposito delle divisioni che ci sono su questa vicenda della FIOM. Ve l'ho già detto, fino alla fine della legislatura la nostra linea resta quella della massima vicinanza ai movimenti, mica possiamo gettare alle ortiche tutto quello che abbiamo seminato con gli studenti, con gli operai. La mia impressione, Donadi, è che la posizione ufficiale di Di Pietro, ripeto, e dunque del partito, perché comunque Di Pietro è il presidente del partito, sia dettata più che da convinzioni sulla vicinanza agli operai, da motivi proprio elettoralistici. Lei conviene su questo? Io credo che questa sia una sciocchezza assoluta, così come è inesistente questa frase, che non so da dove è stata tratta e non è mai stata pronunciata. Credo invece che all'esecutivo che abbiamo fissato per questo venerdì e sabato. Ma perché Di Pietro dalla parte della FIOM? Me lo può spiegare? Che idea si è fatta lei? Perché Di Pietro e una buona parte della classe dirigente dell'Italia dei Valori sono a spada tratta a fianco degli operai della FIOM, in questo caso contro Marchionne? Perché? Guardi, io credo che ci sia una causa un po' più remota e una causa recentissima. La causa un po' più remota è il fatto che in questo momento stiamo vivendo nel paese una situazione occupazionale assolutamente drammatica, per cui io credo che sia normale, anzi doveroso, per le forze politiche che guardano a sinistra, che si ispirano a un maggior criterio di solidarietà, di equità sociale, economica, eccetera, mettere al primo punto su tutto il lavoro. Questo poi ma la linea è troppo sempre la... coniugare il fatto che il lavoro c'è nei limiti in cui c'è un'azienda che è in grado di ma secondo lei la linea è troppo schiacciata sulla FIOM? Me lo può dire questo qua esplicitamente? Questo sicuramente sì. Io credo che negli ultimi tempi la linea di Italia dei Valori sia stata troppo acriticamente adesiva a quella della FIOM. Io credo che un partito debba sempre elaborare un suo progetto politico che, per carità, in alcune circostanze, in alcuni momenti può anche coincidere con quello di una parte sociale, ma deve essere autonomo, non può essere... Ho capito. Abbiamo il traffico. Dopo le faccio ascoltare una voce che lei conosce bene, che è quella del signor Scilipoti, che disse... Vabbè, lo sentiremo. 800 24 00 24. Poi le chiederò se ci saranno altre uscite dall'Italia dei Valori, come qualcuno annuncia nei prossimi mesi, a favore del gruppo di responsabilità nazionale traffico. Le zanzare di casa. Sentire dire dal mio capogruppo telefonicamente che aveva concordato con Repubblica e con il PD, cioè di farmi una campagna denigratoria che nemmeno i miei figli mi avrebbero più riconosciuto. Avete sentito la voce di Domenico Scilipoti, ex Italia dei Valori, adesso nel gruppo di responsabilità nazionale, addirittura potrebbe essere il capogruppo di questa nuova formazione politica, che magari si formerà un nuovo gruppo parlamentare a fianco del PDL. 800 24 00 24. Io è un po' di tempo, donati, che le voglio chiedere questa cosa. Lei non si è più espresso su questa vicenda, ma questa famosa telefonata a Scilipoti, in cui lei avrebbe minacciato che insieme a Repubblica e Partito Democratico avrebbe demolito la figura di Scilipoti, in sostanza è questa. Lei mi dirà no, non c'è mai stata, eccetera, però la domanda gliela faccio lo stesso: c'è stata o non c'è stata questa telefonata? Guardi, quando una persona compie un atto che per tutti quelli che fino lì lo hanno conosciuto e condiviso il suo impegno politico è ignobile, è evidente che si deve trovare una giustificazione. Una telefonata c'è stata, perché quando io ho capito che c'era qualcosa che non andava ho chiamato Scilipoti per chiedergli un incontro, e dalla telefonata ho capito che lui aveva intenzione di passare con il centrodestra, e gli ho detto ma se si rendeva conto di quello che stava facendo. Quindi io non l'ho minacciato, gli ho semplicemente Non ha minacciato di fare una campagna nei suoi confronti? Ma guardi, ma è una cosa talmente... Mai nessuna minaccia, ma non minaccia, nel senso... Io non ho mai minacciato nessuno nella mia vita, ma poi le pare una cosa seria e credibile che studiavo una strategia con Repubblica e con il PD per delegittimare Scilipoti, poveretto. Ecco, ma come gli è venuto in mente di dire proprio il PD insieme a Repubblica? Donati mi ha detto... ma questo lo chiede a Scilipoti. No, io l'ho chiesto, ma sai, Scilipoti... Dei deliri di Scilipoti, non... È un delirio, insomma, questa roba qua. Senta, ma lei ha mai più parlato con Scilipoti dopo? No, e penso che non lo farò per il resto della mia vita. Addirittura, è pur sempre un suo collega, un parlamentare. Essere parlamentari non significa essere persone che meritano il rispetto di tutti. Il mio rispetto Scilipoti lo ha perso per sempre, poi non pretendo di avere io il suo, ma lui non ha il mio. Senta, Donati, ma... la questione di Scilipoti, secondo lei si è trattato di un episodio di compravendita, cioè è stato comprato con che cosa, se è stato comprato? Io questo non lo posso sapere. Appunto, perché è passato col centrodestra, secondo lei? Io sono personalmente convinto, ma non ho certo le prove, non le posso avere, che non Scilipoti, ma tutte le persone che sono passate improvvisamente nel giro di 2 settimane dal centro-sinistra al centro-destra siano state motivate in qualche modo. Da che cosa? Non posso che prendere atto di quello che hanno detto due di questi parlamentari in due interviste. Mi riferisco a Calearo, che in una intervista fatta poche settimane prima di passare al Riformista disse che le quotazioni per i parlamentari che passavano col centrodestra erano intorno ai 350.000 euro, ma che le quotazioni erano in aumento con il passare delle giornate, e un'altra intervista fatta da un nostro ex parlamentare, l'onorevole Razzi, che dichiarò che gli era stato offerto di pagargli il mutuo sulla casa oltre alla rielezione sicura, per cui voglio dire, se tanto mi dà tanto, dunque secondo lei sono stati comprati con dei soldi, con soldi in contanti, che siano mutuo o soldi in contanti o qualcosa del genere? Quali siano, sicuramente per delle utilità, quali siano io non lo so. Delle utilità che cosa potrebbero essere? Anche una rielezione? L'utilità può essere la rielezione, può essere un incarico pubblico, può essere un posto di sottosegretario. Lei esclude che ci sia stato un convincimento da parte di queste persone che per la stabilità del governo? Razzi e Scilipoti fino a 2 settimane prima erano talora dei problemi per me, perché in aula si esprimevano con interventi troppo coloriti nell'attaccare il governo. Guarda caso, in 2 settimane si sono determinate i contagi. Comunque, purtroppo questo non appartiene alla politica, ma soltanto allo squallore di questa fase della politica italiana. Senta, ma ci saranno altre uscite come minaccia moffa dall'Italia dei Valori? Ho detto e qualcuno ci ha fatto... Metta qui la mano sul fuoco. Qualcuno mi ha già nominato Muzio Scevola, ma io la mano sul fuoco ce la rimetto. Lei rimette la mano sul fuoco, i deputati dell'Italia dei Valori resteranno 22. Assolutamente. E i senatori? I senatori non sono io il presidente. Ho capito, però non mi risulta ci siano problemi al Senato, anzi. Al Senato c'è un senatore che dovrebbe passare al nostro gruppo nei prossimi giorni. Ah, attenzione però, al Senato dovrebbe passare un senatore chi? Sì, era già nel nostro gruppo, ne è uscito, dovrebbe rientrare. E chi è? È il senatore Astore. Il senatore Astore che dove è passato? Però, guardi, dove era passato? Nel mio gruppo, no, dove era passato? Il senatore. Non voglio essere scorretto nei confronti di chi... Vabbè, poi chiameremo il capogruppo, naturalmente. Il senatore Astore che è stato eletto con voi? o sbaglio? Era uscito per noi. È uscito per dissidi interni al partito, ma è sempre rimasto nell'ambito del centro-sinistra. Adesso sta... Che si era iscritto al gruppo misto? Si era iscritto al gruppo misto, va bene. Dunque, un acquisto addirittura, faremo un acquisto. Insomma, questa... non facciamo. Vabbè, un acquisto in senso. Non togliamo le fanfare, ma lei mi ha fatto una domanda e io ho fatto una risposta. Certo, non perdiamo nessuno, anzi, ne riprendiamo un altro. Ecco, questo è il riassunto, potrebbe essere. Perlomeno un altro, poi vediamo. Perlomeno nel senso che c'è. No. Cioè, voi siete passati da 29 a 22 alla Camera, qualcuno potrebbe rientrare? Ma guardi, io voglio dire questo su questa cosa, è vero, siamo passati da 29 a 22, Noi siamo negli ultimi 10 anni, da quando esistiamo, l'unico partito, prima di noi l'ha fatto soltanto la Lega, che ha costruito una classe dirigente non ereditando da frammenti di partiti precedenti pezzi di classe dirigente dal territorio a livello nazionale. La Lega, che ha fatto la stessa esperienza nostra 25 anni fa, se lei si ricorda, nelle prime due o tre legislature... Sì, ci furono dei cambi, dei passaggi, certo. Ma infinitamente maggiori dei nostri. Io ricordo che elesse Irene Pivetti Presidente della Camera e nel corso della stessa legislatura in cui era Presidente della Camera, lei passò Mondini, il capogruppo alla Camera nella legislatura dal 94 al 96, la legislatura successiva fu eletto con la Margherita, è come se io alla prossima legislatura mi candidassi con Berlusconi, ecco. Quindi... Cosa vuole? Senta, quando su questi passaggi mette, però una responsabilità a questo ragionamento che ci sta tutto. Quando si mette in moto una mobilitazione come abbiamo fatto noi di 50.000 persone che provenivano al 95% dalla società civile, è inevitabile anche commettere degli errori. Ecco, noi, chi li ha commessi secondo lei degli errori? Abbiamo commessi tutti, non è che li ha commessi. Di Pietro ne ha commessi degli errori. È evidente che chi ha maggiori responsabilità se ne assume onori e oneri, però guardi, tutto si può fare tranne che una colpa, l'abbiamo sempre condiviso all'interno dei nostri organismi dirigenti a partire dall'ufficio di presidenza di cui io faccio parte dalla nascita di questo partito con altri, quindi la responsabilità è collegiale, però criticare a fatti accaduti è facile, queste sono persone che stavano con noi da 10 anni. Senta, esiste una questione morale, come dice De Magistris, e poi De Magistris pone una sfida concreta a Di Pietro, una sfida alla leadership, adesso non mi sia diplomatico su questo, perché è evidente che c'è una sfida da parte di De Magistris a Di Pietro, su come è legittimo che sia per quello che riguarda la futura guida di un movimento. Guardi, io credo che non ci sia nessuna sfida alla leadership, se qualcuno pensa di fare una sfida alla leadership sulla questione morale all'interno di Italia dei Valori ha veramente sbagliato tutto, perché una questione morale all'interno di Italia dei Valori non c'è. L'unica cosa che mi ha un po' amareggiato è che De Magistris ha detto in interviste al Corriere della Sera, a Repubblica, che in Italia dei Valori c'è una questione morale. 3 giorni fa ha detto che si era sbagliato con i termini, che in Italia dei Valori una questione morale non c'è. Peccato però che l'abbia detto a Strill.it. Lei sa cos'è Strill.it? No, non ho idea. Che cos'è nemmeno io. Che vuol dire? Mi spieghi questo? Che quando ha detto che c'era una questione morale l'ha detto al Corriere della Sera della Repubblica. Quando si è accorto che la questione morale non c'era l'ha detto un'intervista a Strill.it. A un sito, diciamo, non tra i più conosciuti, certo. E si dovrebbe invece mettere da parte lui per le vicende che ha, per le cose in cui è coinvolto o no? Io credo assolutamente di no. Nel senso che De Magistris ha fatto delle indagini importanti e straordinariamente complesse e credo che chi è stato in prima linea, così come lo è stato lui, su questioni molto delicate e ne abbiamo avuto un'esperienza anche con Di Pietro, poi in questo paese purtroppo paga ancora un prezzo per le scelte di rigore che ha. Però è anche vero che se avete delle regole interne, poi quelle regole interne o le cambiate oppure bisogna rispettarle fino in fondo. Ma la nostra regola interna la rispettiamo e prevede che ci sia l'obbligo della sospensione dai gruppi e dal partito, salvo una decisione contraria che non può non essere concessa al Presidente del partito. Benissimo, perché, De Magistris è una deroga rispetto alle regole interne del partito. Grazie, devo chiudere, c'è il giornale radio. Grazie. 800 24 00 24, ci sentiamo con gli ascoltatori naturalmente e con Parenzo alle 19:15. Coach. eccoci qui, caro Parenzo, come stai? Bonsoir à tout le monde, la Zanzara. Si stai preparando già la nostra sortita la prossima settimana, la vogliamo annunciare o no? Come no, saremo a Strasburgo in omaggio a Cesare Battisti. Esatto. In omaggio a Battisti faremo una diretta da lì, la Zanzara si trasferisce armi e bagagli. Armi e bagagli a Strasburgo, vabbè, non è la prima volta, sarà la seconda volta, ospiti naturalmente parlamentari europei, eccetera. Ospiti eccetera. Pazzeschi, non possiamo dire di più. Non possiamo dire di più, non possiamo dire di più. Ci sarà però una conferenza stampa molto importante, in cui saremo presenti in massa, naturalmente noi della Zanzara, sulla vicenda di Cesare Battisti, organizzata dai parlamentari europei italiani. Ça va sans dire, andiamo subito con i titoli del TG3. Mi annunci intanto che questa sera nella tua trasmissione Titanic Italia, in onda su 7 Gold, dichiarazione pazzesca di Massimo Calearo sugli operai della FIOM. Li manderebbe dove quelli della FIOM? Lui manderebbe tutti in Cina, dice, manderei quelli della FIOM in Cina, così sindacalizzano i cinesi, perché qui in Italia non servono a niente. Meraviglioso, così si rendono conto, lui dice delle condizioni. Qual è qui non servono, mandateli in Cina, qui non servono. Ma io come non servono qua? FIOM, scusate. In Cina. Va bene, titoli del TG3. Si insanguina la rivolta in Tunisia, almeno 9 le vittime nella capitale, aggrediti i nostri inviati Maria Cuffaro e Claudio Rubino. Berlusconi si schiera con la Fiat, se passa e no l'intesa giusto che lasci l'Italia, poi sulla consulta il verdetto non mi preoccupa. Camusso e Bersani sulla Fiat, dal Premier parole vergognose, vendola a Mirafiori, il governo a gamba tesa a favore di Marchionne. Alla vigilia del referendum la Fiat spiega in fabbrica l'accordo, la FIOM protesta, così si condiziona il voto, tensione davanti ai cancelli. Domani la consulta decide sul legittimo impedimento, intanto oggi via libera al referendum abrogativo promosso dall'Italia dei Valori. Una giovane mamma di Alghero con i suoi due figli di 7 e 9 anni dopo lo sfratto costretta a vivere in un garage. Col TG3 ad Haiti, devastata un anno fa dal terremoto che provocò 250.000 morti, la ricostruzione non c'è e il dolore dei sopravvissuti non si attenua. Le zanzare di casa mia si nutrono di me quando il giorno scivola. Allora, due personaggi, due sindaci che a me stanno molto simpatici. Sono due sindaci, caro Parenzo, del Partito Democratico. Iniziamo dal primo. Uno è ormai per me un mito, non ho ancora il busto perché, per carità, non voglio esagerare con questa storia dei busti. Il busto per il momento lo riservo ai personaggi storici e a Marchionne. Il busto. Però Matteo Renzi potrebbe, diciamo, nel futuro ambire a questo prestigioso riconoscimento crucianesco, diciamo. C'è la costruzione di un busto, diciamo che è sulla buona strada, soprattutto quando dice di essere, fregandosene delle critiche, senza se e senza ma, dalla parte di Marchionne. Senti, ecco. Io sono dalla parte di Marchionne, dalla parte di chi sta investendo sul futuro delle aziende quando tutte le aziende chiudono. È un momento nel quale bisogna tentare di tenere aperte delle fabbriche, e diciamo anche la verità, è la prima volta nella sua storia che la Fiat, anziché chiedere i soldi degli italiani con la cassa integrazione, prova a mettere dei quattrini per agganciare alla locomotiva America anche Mirafiori e anche la struttura italiana. Quindi senza se e senza ma dalla parte di chi crea lavoro e di chi crea ricchezza. Ma voli solo tu. Senti come lo attacca Gad Lerner. Stasera, ha scritto ieri sul suo blog, il rottamatore del Partito Democratico, intervistato dal TG della 7, nonché sindaco di Firenze, Matteo Renzi, ha proclamato: io sto con Marchionne, contento lui, peccato abbia soggiunto fra le motivazioni che lui sta con l'amministratore delegato della Fiat perché vuole fare investimenti in Italia anziché pretendere i soldi dalla cassa integrazione dallo Stato. Avrebbe fatto meglio a informarsi prima su quanta cassa integrazione stiamo pagando alla Fiat dal 2009 in qua e quanto ancora gliene dovremo pagare nel 2011 a Mirafiori. Magari Renzi intendeva nel futuro, dopo il superamento di questa cassa integrazione, non ci sarà più bisogno di cassa integrazione, non è che magari si riferiva alla cassa integrazione di questo momento. Comunque, diciamo che la critica nel merito da parte di Lerner ci può anche stare. Dice Lerner, cassa integrazione del 2011 2011 a Mirafiori, Pomigliano e altrove. Cialtroneria addirittura, ma non solo, scrive Lerner. La chiara prospettiva di un'uscita individuale dall'orizzonte della politica di sinistra, il fenomeno mediatico televisivo Matteo Renzi, a me pare destinato in tempi abbastanza ravvicinati al più classico salto della quaglia nel centrodestra. Spero che Pippo Civati e gli altri militanti critici autoconvocati del PD prendano le distanze da un leader certamente più vicino ad Arcore che al mondo del lavoro dipendente. Insomma, secondo Lerner, Renzi con questa uscita è praticamente un berlusconiano, passerà del centrodestra ed è un cialtrone. No, cialtrone no, resto nel merito. È così, cialtrone nel merito, certo, cialtrone nel merito, no, però cialtrone. Nel merito l'analisi di Gadolino è vera, no? Ma cosa è vera l'analisi? Cioè, come si ma fa? Sei sempre, ma anche di che sei con Renzi se te la senti, perché sì, sono con Renzi però ha ragione Lerner. No, ho ma ragione Renzi o Lerner, due. No, ma lei si batte che fa una battaglia politica. Nel merito sbaglia. Ma perché nel sbaglia? Perché? Come sbaglia Berlusconi oggi quando fa un atto assolutamente anti-italiano e poi te lo spiego. Ma è una stronzata questa cosa qua, di atto anti-italiano, è una stronzata. La critica a Berlusconi si può fare. Fa bene ad andare via. Non ha detto questo, ha detto se perdono i no, se perdono i sì, scusa, se vincono i no all'accordo, l'azienda fa bene a valutare altre destinazioni degli investimenti. È la fotografia del paese. Ma è una stupidaggine, è una fotografia della realtà. È una fotografia della realtà. È una cosa. È come dire, ma scusami, ma con quale spirito un investitore europeo o mondiale decide di venire qui? Ma che c'entrano gli investitori europei? Cosa c'entrano gli investitori europei? Si chiama attrazione di capitali, per parlare in gergo. Ma no, ma non è questo, ma non è questo. Il Presidente del Consiglio non difende l'attrazione di capitali dall'estero. Allora, Berlusconi sta dalla parte di Marchionne, mi pare evidente. Sta dalla parte. Berlusconi è canadese. No, ma non è così. Non è così. Berlusconi è anti-italiano. Berlusconi è dalla parte di Marchionne, non lo dice esplicitamente, ma è dalla parte di Marchionne. Americana. Dunque fa una scelta chiara, è dalla parte di Marchionne, punto. Ma che? Ma il Presidente del Consiglio. Ma chi l'ha detto poi che la Il Presidente del Consiglio può giudicare nel merito un accordo come quello, ma non dire che fa bene ad andare via. Il Presidente del Consiglio. Ma con che occhio? Ma scusa, se un'impresa americana legge l'agenzia di Berlusconi in inglese, ma come con che testa, con che spirito potrà investire? Ma questa è una stupidaggine, non c'entra niente gli investitori stranieri, eccetera. Ma come no? Questo non c'entra nulla. Guarda, se, allora io paese, ho letto nelle parole di Berlusconi semplicemente la fotografia della realtà. Risentiamo. Su Fiat noi riteniamo assolutamente positivo lo sviluppo che sta avendo la vicenda, con la possibilità di un accordo tra le forze sindacali e l'azienda nella direzione di una maggiore flessibilità, e dobbiamo dire che ove questo non dovesse accadere, chiaramente le imprese e gli imprenditori avrebbero buone motivazioni per spostarsi in altri paesi. Quindi ci auguriamo che la vicenda possa avere un esito positivo. Eccoci qui, 1924 800 24 0024. L'altro sindaco, caro Parenzo, che mi sta molto simpatico per le sue uscite ultimamente, è il sindaco di Bari Emiliano, il quale ha costretto, tra virgolette, tutti i suoi uomini, assessori, consiglieri, eccetera, eccetera, ad aprire un sito su Facebook, insomma un account su Facebook. Ha scoperto, sempre attraverso Facebook, che alcuni netturbini si fermano troppo a parlare, lavorerebbero poco, secondo Emiliano, e dunque ha chiesto a questi netturbini spiegazioni. Naturalmente apre di cielo, polemiche, eccetera. No, questo è buono, questo mi trova assolutamente d'accordo. Certo, Emiliano è un riformatore, un innovatore, usa questo nuovo media per fare politica. Invece Renzi che è? Ha detto, secondo me, è una cazzata in questo caso, si può dire ancora. Ma perché dire senza se e senza ma? Perché se Renzi dice sono senza se e senza ma, dalla parte di chi dà lavoro dice una sciocchezza? No, spiegami, non capisco. Ma perché sta governando il comune di Firenze? Vabbè, questo è un altro discorso. Dovrebbe evitare di fare dichiarazioni sulla Fiat? Cioè, voglio dire, sarebbe meglio che, come si dice in Lombardia, ognuno faccia il proprio mestiere, se ne fa il tuo mestiere, no? E quindi. No, ma questa è una posizione, secondo me. In questa parte lui sta governando il comune di Firenze. Allora, o decide di scendere direttamente nella dirigenza nazionale del partito, e quindi può intervenire su tutto, anche sui colibrì. Io mi aspetto che ora intervenga Colibrì, ma ci sta, va bene. Però vabbè, non dovrebbe fare queste dichiarazioni sulla Fiat perché dovrebbe occuparsi di più di Firenze, invece fa troppe dichiarazioni. Allora, Emiliano. Chiamparino, invece, siccome è direttamente interessato della vicenda, è chiaro che è giusto che intervenga. Però, scusami, quando Chiamparino, che è sindaco di Torino da tanti anni, forse la differenza è questa, interviene a ruota sulla politica italiana e lo fa, nessuno critica Chiamparino perché magari dice le cose in maniera un po' più soft, non ha il carattere di Renzi. È meno presente forse sui media di quanto lo sia in questo momento Renzi. Comunque Emiliano, i fatti sui netturbini, sentiamo. Mi hanno mandato una fotografia di un crocicchio di operatori ecologici che con i loro piccoli tre ruote erano lì a conciliabolo piuttosto che lavorare. Messa così andava spiegata questa vicenda. Quindi l'unica cosa che io ho fatto in realtà è stata quella di postare questa fotografia e chiedere ai netturbini, dove si fossero riconosciuti, di spiegare cosa stavano facendo, perché la fotografia si prestava a qualche equivoco. Se mi guardi, ti giuro, mi confondi, ti sento respirare. Chiudo gli occhi. Capito Emiliano? Certo, si rischia la caccia alle streghe, diciamo la verità, lo scriveva Michele Serra, credo, su Repubblica, oggi o ieri, non mi ricordo, oggi credo. Insomma, è vero che se uno non è che cioè lo spunto per fare un'indagine sul lavoro dei netturbini non è che può essere solo un'immagine su Facebook, il fatto che si trattengono a chiacchierare su Facebook, altrimenti potrebbe essere valida qualsiasi cosa, diciamo la verità, insomma, o no? No, certo, ma caccia alle streghe io la chiamerei caccia agli assenteisti più che altro. Sì, no, caccia alle streghe nel senso che si rischia di colpire. No, si rischia di colpire. Si può fare un'indagine su quanto lavoro i netturbini. Forse lo spunto che viene da una chiacchierata o da una fotografia su Facebook o da alcuni momenti ripresi da Facebook non mi pare una. No, però vedi, la differenza è questa: che lui usa questo media, questo social network come anche strumento di lavoro. Non ha detto che li colpì, che sai chi sono. Gli è venuto lo spunto perché evidentemente qualcuno gliel'ha segnalato. Anche noi quando facciamo il nostro mestiere andiamo a guardare le fonti. Poi se una notizia appare su Facebook o su un sito, comunque magari ci incuriosisce e poi andiamo a verificare. Dice la stessa cosa può fare un rappresentante delle istituzioni, politico, un sindaco. Anzi, allora, senti moderno. Questa cosa sulla notte, sui siti porno, mentre Berlusconi si diverte, senti. Che praticamente io dormo pochissimo, come avrete già notato, infatti se non sbaglio mi avete detto che io lavoro sempre di notte. Sì, l'altra ipotesi è che ogni tanto lei mi guardi qualche sito porno, perché devo dire che preferisco avvalermi della facoltà di non rispondere, ma bene, certo. Perché sennò si rischia di dividere bugie. Tosi ha confessato. Cambiamo argomento, che è meglio. E diceva, quindi lei di notte... Faremo comunque una bruttissima figura con Berlusconi, perché noi andiamo sui siti porno e lui si diverte. Quando tutto sembra poesia... Questo a Caterpillar ieri, insomma, Emiliano che quasi confessa di andare di notte sui siti porno insieme credo al sindaco di Verona Tosi, ma insomma non mi pare una cosa particolarmente grave, e bisogna vedere naturalmente quali siti porno. La canzone di Ruby, me la date un attimo, la canzone di Ruby, perché parla Ruby, vi ricordate? Sembrava scomparsa, c'è stata anche un'archiviazione di tutta la vicenda riguarda la magistratura, la nipote di Mubarak, certo, la nipote di Mubarak. Sì. Intervista ieri diffusa da Repubblica.it, non mi pare con grande poi risalto da parte degli altri media. Comunque un passaggio significativo è questo: Berlusconi come un re Mida infelice, sentite. Tutta questa felicità, per come l'ho conosciuto io in tre sere, credo di aver visto un uomo non tanto felice. Perché comunque sì, all'aspetto può sembrare felice, perché comunque uno dice, c'ha tutti quei soldi, c'ha tutta quella carriera, è un uomo che tutto ciò che tocca diventa oro, tutto quello che ci mette mano funziona. Però non credo che sia tutto nella vita, nel senso che comunque, vista dal mio punto di vista, una persona che può avere così tanti soldi non ha neanche desideri e neanche delle cose che può voler realizzare, perché tutto quello che è il suo desiderio lo può fare. Forse ci potevamo risparmiare questa Ruby in versione psicologa di Berlusconi. Andiamo alla borsa, 800 24 00 24, ci sentiamo tra un attimo con la Zanzara. Le zanzare di casa mia. qualche volta sono stato ad Arcore a pranzo o a cena, ma... però insomma non c'è un gran dialogo, a parte che parla sempre lui, cioè io anche l'ultima volta sono andato, noi ci sediamo a tavola, cominciamo a mangiare e lui ha parlato di politica tre minuti e mezzo, poi si è scatenato con le ragazze, strano, poi si è scatenato con le barzellette, strano anche questo, e poi è finita la cena, arrivederci, e io qualche volta cercavo di infilarmi in una pausa, ma Berlusconi non fa pause. Qual è il sentimento che prova Berlusconi nei tuoi confronti? Ma io so benissimo di non essergli simpatico, però con me è sempre stato molto corretto, molto, molto cordiale. Certo, non abbiamo mai avuto dei rapporti stretti, né telefonici né personali. Sì, magari qualche telefonata a Natale, gli auguri, a Pasqua, queste cose. Mi illudo di volare, ma voli solo tu da me. Allora, Berlusconi deve mettere le palle sul tavolo. Ci manca solo quello, poi faccio tutto. Se ne parlerebbe comunque. Sì, se ne parlerebbe. Guarda, secondo me Berlusconi... Tu ce lo vedi Berlusconi con le palle sul tavolo, per dire la verità. Oddio, farei volentieri a me. Chiudo gli occhi, mi illudo di volare, ma voli solo tu da me. Temo, insomma, che il premier sia ancora Berlusconi. Perché lui dirà, sì, adesso ho... Non so quanti ne avrà... Ne avrà 77. È del 36, sì. Ecco, dirà sì, ho 70, però sto bene, ho ancora quei 7-8 orgasmi quotidiani. Sempre il presidente. E quindi chi sarà? Ci sotterra tutti, eh. Quindi... Ancora Feltri da Cortina, eh? Cult assoluto, caro Parenzo. Feltri tutta la vita, eh. Feltri tutta la vita. 800240024. C'è un ascoltatore, Loris Costa di Como, che mi scrive: vorrei sapere quando termina la collaborazione del signor Cruciani con la radio per poterne riprendere l'ascolto. Grazie. Vuoi comunicare qualcosa tu al signor Costa, Parenzo? È ascolta il signor Costa. Come? No, adoro chi si attacca. E quindi, va bene, no, proposta, la democrazia del telecomando o il cambio frequenza, ma so, farai. Vabbè, ma sono cose, risposte scontate, ma anche quelle che avrei dato io, naturalmente. Umberto da Trento, buonasera. Buonasera, io l'ho sentita volentieri, velocissimo, sono d'accordo con il presidente Berlusconi sul caso Mirafiori. E quindi diciamo non ho nulla contro Berlusconi, anzi spesso e volentieri mi è anche simpatico. La cosa che vorrei mettere così all'attenzione di stasera è che oggi ho sentito Sky 24, il telegiornale, e mi sono visto tutta la conferenza stampa, tra l'altro breve, tra Merkel e Berlusconi, cioè di Merkel e di Berlusconi, sì. E ho sentito le domande dei giornalisti. Ha due domande Berlusconi, quella sull'economia, che è limitata a dire che lui conferma quello che ha detto la Merkel e che comunque l'elemento più importante in questi casi è l'ottimismo. E vabbè, allora poi? Vabbè. E l'altro è che lui gli ha chiesto al giornalista, ma lei è tranquillo con i suoi processi? E ha detto, ah sì, perché dice, tra l'altro dice, io ho giurato sulla testa dei miei figli e dei miei nipoti che sono innocente e quindi andrà tutto bene. Io un po' la Germania, diciamo, la conosco, non a livello grandissimo, ma a diversi amici. Insomma, un capo di governo, ecco, lui se, non lo deve dire. Cioè, cos'è che non deve dire? Non ho capito cos'è che non deve dire. Ma insomma, praticamente ha detto che se uno giura sulla testa dei figli e dei nipoti che è innocente. Ma insomma, questa qui non è neanche una barzelletta. Sì, non è l'argomento che Berlusconi porta ai magistrati, naturalmente, per provare la sua innocenza. Ma l'ha detto, scusi, non l'ha detto al bar con me, con i suoi amici. L'ha detto in un contesto internazionale, durante una conferenza stampa di un certo peso. Sì, perché ma sono cose che Berlusconi, guardi, io posso capire tutte le critiche nel merito e in alcuni casi sono anche d'accordo, ma siamo ancora a livello che giudichiamo Berlusconi perché fa queste sortite nel bel mezzo di un vertice internazionale, ma è quello che fa da 16 anni. Cioè, cosa vuole che le dica? Un capo di Stato non dovrebbe fare queste sortite, non è una cosa che si adatta, che è conveniente per un capo di Stato, l'imbarazzo della Merkel? È la stessa cosa che si ripete da 16 anni. Fa così da 16 anni in ogni sede possibile e immaginabile, all'ONU, a non so dove, alla NATO, a Dublino, capito, come però. A Mosca. Umberto, di cosa si stupisce? Io non capisco, davvero queste critiche non le capisco. Poi nel merito, vabbè, d'accordo, uno può dire. Ma io ho sentito la Merkel, non ha fatto nessuna battuta, non ha fatto niente, ha risposto in maniera. Certo, la Merkel non è Berlusconi. Lei non ha giurato sulla destra dei figli. Benissimo, lei dice la Merkel non è Berlusconi. Bella scoperta, la Merkel non è Berlusconi. Siamo arrivati a questa novità 16 anni dopo. Non lo so, cioè la Merkel non è Berlusconi. D'accordo. Scusi, Crociano, no, lasci dire. Quando è lì a fare la trasmissione come stasera, sì, non penserà mica di essere come se fosse su una pista di sci. Cioè, anche lei avrà un modo di comportarsi, di porsi, di gestire le cose, eccetera. Allora, certo, io cittadino italiano desidero che il mio Presidente del Consiglio, sì, quando va all'estero, sì, si dimentichi le battute e non passi l'idea che lui è innocente perché l'ha giurato sulla testa dei figli. Ma guardi che chi l'ha ascoltato è una persona normale, non ha mica pensato, no, che fosse una in vena di barzellette. Umberto, abbia pazienza, io non sto dicendo che lei sì, ho capito. Detto, io sono tranquillo perché sono innocente, niente da dire. Ma cosa vuol dire? Vabbè, ma non ha parlato solamente del giuramento, non ha solamente giurato sulla testa dei figli, ha detto anche, sbagliando comunque, che andrà in televisione perché sono fatti inesistenti, eccetera, eccetera. Poi c'è stata questa storia del giuramento. Detto questo, Umberto, nel merito io posso anche essere d'accordo con lei. Non capisco lo stupore. Cioè, lei dice perché quello va a un vertice internazionale e dice certe cose e la Merkel è diversa. Beh, insomma, non è che ci voleva questo vertice internazionale per provarlo, eh? Parenzo, tu che dici? Non lo so. No, io dico sì, che tu hai ragione nella sostanza. Però il ragionamento semplice da fare è che se uno si mette a fare la pipì al Colosseo, no? E arriva un vigile e dice: guardi che proprio pipì al Colosseo non si può fare, lì ci sono i bagni. E lo fa una volta, lo fa due, lo fa. Sì, ho capito, ma è una critica. Ce lo dire. Davanti al Colosseo da 16 anni. Ma è un'osservazione assurda, sì, perché è la stessa cosa di 16 anni fa. Ma non è che se uno. Ma no, ho capito, diciamo, ma insomma. Un comportamento sbagliato. Ma andiamo oltre. Possiamo andare oltre, ma fare la pipì davanti al Colosseo non è carino. Sì, d'accordo, adesso il paragone della bisogno, scusa, ma lascia perdere le domande sulla politica interna, scusa un attimo, le domande sulla politica interna, lasciamo perdere il merito della questione, giusto? Che abbia detto che è roba sulla Fiat, sai? No, ma è molto più grave politicamente, sì, ovviamente. Però lì andiamo ancora nel merito. Lì si può discutere, naturalmente Berlusconi ha torto, ha ragione, ha fotografato la realtà, ha esagerato, eccetera, eccetera. Qui stiamo parlando del fatto anti-italiano, come dici tu, eccetera. Qui stiamo parlando di un'altra cosa, cioè, no, infatti, l'ascoltatore dico, Umberto, se non sbaglio, Umberto, lei pone una questione di forma, di galateo, di è importante a livello internazionale, no, ma io non sto dicendo che non sia importante, sto dicendo lei pone questa questione qui, io dico che è la stessa questione che ci poniamo da 16 anni, punto. Non dico ha ragione, ha torto Berlusconi, dico semplicemente che è Berlusconi. Lì è Berlusconi e lì è la Merkel. Insomma, cosa ci aspettiamo? Capito. Che gli fanno le domande di politica interna e Berlusconi non risponde dicendo: ah no, beh, sono con la Merkel, non voglio rispondere. Cioè, è nei fatti, a parte che qualsiasi politico italiano all'estero ha sempre risposto su domande di politica interna, tutti, dal primo all'ultimo. Sì, questo certo. E allora di che parliamo? Poi nel merito della questione è Berlusconi. Il giuramento sulla testa dei figli, Umberto, lei si stupisce di questo, non è mica la prima volta che Berlusconi lo dice. Cioè, l'ha già detto. Capito, ma lo vai a dire proprio lì, cioè io mi stupisco. Ma è Berlusconi, Umberto, Berlusconi, è Berlusconi. A limitarci un attimo. Ecco. Ma è appunto, ma di questo stiamo parlando. Lei si stupisce che non riesca a limitarsi. Ma guardi che miracoli non ne fa. L'oro davvero, il piombo lo trasforma in oro. Che quando va all'estero che si comporti in maniera corretta, che tutti gli altri comportano correttamente. No, ma sì, appunto. Berlusconi è Berlusconi, invece fine casino. Berlusconi è Berlusconi. Bene, cioè, verso di noi, guardi che lo paghiamo. Cioè, voglio dire, certo. Non è questione che, cioè, lui ci rappresenta e io, come italiano, non voglio essere rappresentato da un Presidente del Consiglio che riduce la giustizia a una dichiarazione di fede sulla testa dei figli e dei nipoti. Ma insomma, dai, su. E poi sentiamola questa dichiarazione. Una patata è sempre una patata anche dopo 20 anni. Berlusconi sarà sempre Berlusconi, però io credo di avere il diritto che lui, diciamo, ma lei ha tutti i diritti del mondo, come è bravo a fare gli affari, certo, che diventi così, insomma, che non mi faccia passare per un italiano che giura sulla testa di figli, Lei si è fissato su questa dichiarazione, andiamo a sentirla, via. Io sono naturalmente totalmente indifferente al fatto che ci possa essere un fermo o meno dei processi, che considero processi assolutamente ridicoli su fatti per i quali ho avuto modo di garantire, giurando sui miei figli e sui miei nipoti, che sono inesistenti. Bene, 19.44, 800 24 0024, dopo queste polemiche sul discorso di Berlusconi insieme alla Merkel, caro Parenzo, torniamo agli ascoltatori e direi di andare a Napoli da Pasquale, buonasera. Buonasera Cruciani, mi sente? La sento, dica. Sono un vecchio suo ascoltatore e mi diverto tantissimo negli ultimi tempi. Penso all'ingenuità di tante persone che si incazzano contro sto Berlusconi. Io penso che Anno Zero, Ballarò e forse anche la Zanzara per metà andranno in pensione quando morirà Berlusconi, politicamente intendevo. Perché non si fa altro che parlare di Berlusconi. Io però ieri chiamavo per un altro motivo. Sì, Pasquale, lei sta chiamando oggi, non ieri. Dica esattamente. Io ho chiamato ieri veramente. Sì, d'accordo, dica esattamente il motivo per cui allora ci ha chiamato. Oggi facevo una riflessione mentre studiavo una delle mie chitarre cinesi. Cioè, no, non ho capito, lei studia chitarre cinesi? No, allora io sono un cantante chitarrista, mi sto preparando per una registrazione venerdì. Sì. E allora provavo su una delle chitarre che è cinese, questa qui che c'ho con me. Mi faccia sentire qualcosa. Pasquale, mi faccia sentire qualcosa. Sì. E diceva, cora cuore, cuore mio lontana vai, tu non lascia io come t'allora, chissà quando tu narrai. Ma lei è un genio assoluto, Pasquale, questa è, a chi è dedicata questa canzone? Scusi. Ma qua la dedicherei anche Berlusconi, che è molto simpatico. Ecco, prosegua, vada. Anche se politicamente forse sta facendo diversi guai, però io vedo, per esempio, Ballarò ieri, no? Sì. Queste lezioni di diritto costituzionale dalla grandissima Rodotà, c'è tutta questa manipolazione, alla fine il diritto è così complesso, specialmente in Italia, io ne so qualcosa perché un po' di studi di diritto ne ho fatti. Pure. E vedo che c'è, per esempio, chiamava ieri questo costituzionalista e parlava di appropriazione indebita. Penso che un costituzionalista. A proposito di cosa? Appropriazione indebita per il logo Italia. Là. Sì, uno che confonde il furto per l'appropriazione indebita, insomma. Ma torniamo alla canzone, Pasquale. Non stiamo su queste cose. Questa canzone che lei ha composto. No, mica è mia, questa era De Maggio, 1887. Infatti aveva un suono conosciuto. Che cos'è questa canzone? Scusa? Era De Maggio e cade a mentire. La conosce, no? Vada avanti, Pasquale, la prego, sono estasiato. Era l'aria e tutto era un giardino, azzurrava la rosa cinta parte. Era da maggio, io no, non me ne scordo. Resti con me, Pasquale, resti lì. Resti lì, Roberto da Trieste, 800 24 00 24. Buonasera, Pasquale, resti assolutamente, Roberto. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Saluto anche il dottor Parenzo, che per cognome è vicino a Trieste. Dunque, voglio soltanto dare due spunti, perché tutta l'avvertenza della Fiat si è purtroppo focalizzata su quella richiesta, sulla partenza, sul contratto integrativo, sul referendum, sì. Che non approvo assolutamente, ma vorrei spostare un po' l'attenzione, perché il problema è... Non ci annoi però, Roberto, non ci faccia venire la noia mortale come ieri sera. No, velocemente. Il problema della Fiat, secondo lei, o secondo tutti quelli che... Allora, la Fiat non è rimasta al passo nel momento in cui altre case sono riuscite a riprendersi un po', la Fiat è rimasta un po' indietro. Il problema è, per una scarsa produzione di veicoli, il problema è per un costo maggiore delle concorrenti? Non direi proprio. Forse il problema della Fiat è molto più ampio di un problema di costi di produzione, di elasticità o di flessibilità. Sì, e questo l'abbiamo già detto ieri. In questo momento, cosa manca? Quello che manca in questo momento è una visione un po' più realistica del problema Fiat. Cioè, come si può pensare che Dunque qual è il punto secondo lei? Secondo lei il vero problema qual è? Vada al sodo, Roberto. Sono tantissimi, sono dall'affidabilità, dall'immagine, dalla pubblicità. Benissimo. Dalla gamma di prodotti, dal posizionamento, dalla fiducia negli ex possessori di marchi Fiat. Io sono di questi, ecco, che appunto, ne ho avute tante. L'avevo intuito. Come si può pensare che Davide, questo signore chiama la flessibilità o benissimo, lei dice il problema non si risolverà, il problema della Fiat, ma questo è evidente e chiaro, non si risolverà solamente col problema della è chiaro che in questo di Fabbrica Italia, eccetera. Una richiesta di Marchionne in questo senso è chiaro che non dovrebbe trovare d'accordo i sindacati, perché a questo punto ok, riduciamo, aumentiamo la produzione, riduciamo le pause. Mi sembra un'idiozia, cioè, assolutamente un'idiozia. Ma non è che c'è solo questo, non è che Marchionne vuole fare solo questo, poi c'è ma tutta certo, un'altra partita che riguarda gli investimenti, dove farli, la Chrysler, Detroit, Torino. Non è che Marchionne dice benissimo, il problema della Fiat in generale è risolto se passerà il sì dei sindacati su Mirafiori. Ma non è così, nessuno sostiene una cosa di questo tipo. Lei ha ragione di dire che non c'è solo la questione del costo del lavoro, della flessibilità, ma ci sono tutte altre componenti. Mi sembra un po' la palissiano. La ringrazio, Pasquale. Aveva questa splendida R Moscia, la Bertina Otti, che dava al contesto un valore. Ma l'ascoltatore, dici? L'ascoltatore? Sì. Chi? L'ascoltatore dei diritti dei lavoratori. Da Trieste, patria dei colibrì, non scordarti no. Mai. Chiamava da Trieste, l'ascoltatore, patria dei colibrì. Mamma mia. Olivero Toscani, buonasera. Buonasera. Come sta? Come sta? Mi chiamate? Come mai la chiamiamo? Noi la possiamo chiamare su tutto, su qualsiasi argomento. No, volevo sapere di cosa parliamo stasera. Lei è pronto su qualsiasi argomento. Non dica di no perché è così. Volevamo parlare della metempsicosi, ad esempio. Cos'è la metempsicosi? La metempsicosi è la reincarnazione delle anime. Vabbè, ho capito, adesso non mettere in difficoltà Toscani sulla metempsicosi, fa ascolto anche su quello, capito? Lo so che fa ascolto su tutto Toscani, però dove si trova Toscani lei? A casa mia. A casa sua, non era al Pitti, no? No, andrò domani pomeriggio, mi hanno invitato. Come mai? C'è una grande festa, mi hanno detto. Come mai l'hanno invitata? La festa della natura. Che sarebbe la festa della natura? Mi spieghi? Allora, domani verrà presentato un calendario che ho fatto, sì, in modo molto naturale, sì, di ritratti che ho fatto nell'arco degli anni. Ma foto o ritratti? Cosa sono? Ritratti. Foto? Fotografie? Sì, fotografie. Perché non è che fa il pittore lei, si fa il fotografo, certo. No, ma anche i fotografi fanno i ritratti. Sì, no, sì, cioè, ho capito. È rimasto la pittura lei? No, io a me piace sia la pittura che la fotografia. La pittura dell'arte moderna, la pittura è una cosa dei secoli passati. Vabbè, i pittori ci sono anche oggi. Comunque lasciamo perdere. Non più veramente, insomma. Beh, le foto, lei ha fatto delle foto. Ho fatto una serie di ritratti, fra l'altro di centinaia. Centinaia di ritratti. Centinaia. Sì, centinaia. Quanti esattamente? Qualche centinaio. Cioè, diciamolo. Di questi ritratti, sì, ho fatto un calendario. Sì. E questo calendario sta avendo un grandissimo successo. Ma perché è il calendario? Diciamolo, anche se facciamo pubblicità, chi se ne frega. Dunque, i ritratti sono il triangolo pubblico. No, per chi sono? Per chi sono? Sono per il consorzio Vera Pelle. Consari della pelle al vegetale. E cosa c'è in questi ritratti? Il triangolo pubblico. Il triangolo pubblico? Sì. Il triangolo pubblico, sai che cos'è, Parenzo? Il triangolo pubblico? Il triangolo pubblico. Il triangolo pubblico. Pubblico. Parenzo, sai cos'è? Cioè, deriva da la mamma, Parenzo, me l'ha insegnato. Cos'è il pubblico? Il triangolo pubblico. Sai, il pube, immagino sia. Triangolo pubblico è il pube. Il triangolo del pube, cioè il triangolo, si dice così. Sì. Ma è una sporconeria allora, scusa. No, perché è una sporconeria? No, non lo so, non capisco il triangolo pubblico. Allora, sono 12 fotografie di Oliviero Toscani. Di Oliviero Toscani, triangoli pubblici. Ecco, ma come ha fatto? Biondi, neri,

Bene, questa è la Zanzara. David Parenzo in collegamento da Roma, 800240024, da casa sua in Toscana, Oliviero Toscani. Eccoci qui. Sai con chi sono, Cruciani? Con chi sei? Sono qui a Piazza di Pietra con un direttore tuo amico, tra l'altro, che conosci benissimo. Chi è? Mi sta offrendo l'aperitivo, almeno spero che lo offra. Chi è? È il direttore del Tempo, Mario Secchi. Mario, Secchi. Mario, amico mio, aspetta, dove sei? Che te Mario, fatto, amico Mario. Mio, amico, aspetta. Ti vuole il direttore. Mario, dove sei? Cosa fai a quest'ora lì sotto il giornale? Vai a lavorare, Io cercavo di prendere una pausa, poi è arrivato Parenzo che, essendo notoriamente un bandito, mi ha subito passato la linea. Ma io cosa devo fare? No, non devi fare niente, un saluto, così ci salutiamo di passaggio. Questo è un caravanserraglio, un souk in cui si entra, si esce, la vita reale. Vedi, il direttore del Tempo è sceso là da palazzo, come si chiama, Wedekind, non mi ricordo più, è sceso, è andato a Piazza di Pietra, che hai preso? Un caffè, una cosa, che hai preso? Stiamo, un cocktail martini. Ah, pure cocktail martini, pure alcolico? Beh, certo, ho capito. Che vuoi fare, il salutista? Ho capito. Poi sali su e chiudi il giornale. Vabbè, chiudi, cioè ti avvii. Allora, ti avvii. Su e faccio un paio di titoli. Scrivo il mio pezzo, mi guardo le pagine e via. Ma oggi su che titoli? Su Berlusconi, Marchionne? Berlusconi con Marchionne? Fiat, voluntas sua. Ma quelli che dicono, ieri mi hanno attaccato, Flores d'Arcais, dicendo tu non puoi, Marchionne viola la Costituzione, leggi il contratto, il diritto di sciopero. Flores d'Arcais, vabbè, è quello che dice la firma, violata la Costituzione sul diritto di sciopero. Dimmi qualcosa su questo, ti prego, tu che sai, io non so. No, guarda, nella Costituzione non c'è, ahimè, allora noi abbiamo una Costituzione dove non è mai citata la parola impresa, e questo ti dice tutto, no? Certo. Per cui l'Italia è l'unico paese d'Occidente dove si è rovesciato la semplice conseguenza del fatto che senza impresa non c'è lavoro. Nella nostra Costituzione è citato il lavoro, ma viene dimenticata l'impresa, per cui il lavoro è qualcosa che si autocompone senza l'impresa. Invece dalle mie parti, ma sai, io sono un ragazzo di campagna, come te. Sì, io sono uomo così di strada. Mi hanno insegnato che c'è l'impresa. Sì, ogni tanto c'è l'impresa, viene ogni il lavoro. Tanto. Allora, Marchionne investe qualcosa come 20 miliardi nella fabbrica italiana in questo progetto, non proprio due bruscolini. Sì. E naturalmente viene accusato di violare la Costituzione, dove non c'è mai la parola impresa, però è interessante tutto questo, Molto interessante, sì. Ma il titolo di domani già l'hai deciso, no? No, non ho ancora deciso, adesso vediamo, però sicuramente è su questo. Devo dire, è importante la presa di posizione di Berlusconi, al di là delle sue... Qualcuno dice che non lo poteva, siccome il Presidente del Consiglio non può dire che la dobbiamo Fiat... Dobbiamo metterci d'accordo qua, perché se il Presidente del Consiglio non interviene, siamo di fronte a un governo che non fa niente. Se il Presidente del Consiglio interviene, allora non lo può fare. A me sembra un paese assai bizzarro. Però qualcuno dice, si è augurato, ha detto che se vinceranno i no, fa bene la Fiat, quel fa bene, non garba qualcuno. Io ho detto che Berlusconi ha fatto la fotografia della situazione. Ha fatto la fotografia della situazione. Berlusconi è un pragmatico, lo sanno tutti questo, ed è anche un uomo che ha una discreta esperienza di impresa. Non mi pare abbia mai licenziato nessuno o fatto pagare, diciamo, i licenziamenti allo Stato. Quindi, insomma, se dici questo è perché ha fotografato bene la situazione. Allora, però, in chiusura, voglio, prima di ripassare la linea a quell'altro tizio che sta bevendo, Parenzo. Penso che nel frattempo sta bevendo un crodino o qualcosa del genere. No, uno spritz. Prima di ripassargli la linea, dimmi una cosa. Ci sono indiscrezioni sul fatto che tu, nei prossimi mesi, non so, Mario Secchi, attualmente direttore del Tempo, potrebbe diventare direttore del giornale? No, non è vero. Impossibile. Mano sul fuoco, giuramento. È impossibile nella vita, ma al giornale c'è Sallusti e mi pare che stia facendo il direttore, no? Con una certa convinzione. Io sono al Tempo e sono contentissimo, cioè non vedo perché cambiare, insomma, no? Renzi attaccato, massacrato per la sua frase su Marchionne, per me di una chiarezza senza se e senza ma con Marchionne, spiegando anche nel merito alcuni passaggi, perché viene così massacrato Renzi per questa vicenda e non solo per questa vicenda? Perché la sinistra non ha ancora deciso cosa fare da grande. Renzi ha preso una linea, è chiara, è netta, uno può anche discuterla, no? Certo. Mi piace, però è una linea. Tu la sai, la linea di Bersani? Ma non lo so, no, su Marchionne no, parla della rappresentatività, ha parlato fino adesso della questione della rappresentanza sindacale. Credo che non appassioni molti italiani questa questione della rappresentanza sindacale, per carità, ma cosa importantissima. È una cosa, Allora, guarda, io ho visto un po' di interviste agli operai e insomma la maggior parte degli operai, Cancelli e Mirafiori, diceva una cosa: bisogna lavorare. Io sono sempre, faccio professione di realismo, no? Al titanio proprio, sì, questa cosa. Sì. No? Bisogna salvare i posti di lavoro, altrimenti le fabbriche delocalizzano, soprattutto le fabbriche dell'automobile. Al di là delle cose che noi possiamo dire anche con, diciamo, scherzandoci un po' sopra, sì, ma qua c'è un tema reale. La Fiat si avvia a diventare uno dei, se tutto va bene col piano Marchionne ovviamente, uno dei 5 o 6 produttori di automobili del mondo. Dopodiché non c'è più Trippi a Bercati, nel senso che quelli resteranno multimarca, multipiattaforma e così via. Mm. E non è importante dove hai la fabbrica a quel punto. Puoi produrre in Indonesia, in Cina o negli Stati Uniti e non produrre in Italia. Mm. Siccome però la Fiat ha una storia italiana, non è, sta sforzandosi di mantenere la fabbrica in Italia, ma è chiaro che non può farlo alle condizioni del mercato attuale. Italiano. Mario, non ti posso più chiamare, tu sei troppo d'accordo con me, siamo troppo d'accordo, non litighiamo, capito? È un disastro. No, ma se vuoi litighiamo, trovo un argomento. Prima o poi litigheremo, vabbè, ripassami quel disgraziato. Ripassami quel disgraziato. E a metà dello spritz potrebbe uscire di tutto. Va bene. Grazie. 20:06, questa è la Zanzara, la piazza di Pietro. Grazie Mario Seghi, direttore del Tempo, 800 24 00 24. Toscani, lei apprezza Marchionne? Ma non posso dare giudizio sulla persona, ma io trovo che purtroppo i sindacati in Italia hanno demonizzato il lavoro, no? Mentre invece di avrebbero dovuto promuoverlo, spiegare alla gente che si vive lavorando, il lavoro è ciò che aiuta e serve, è la cosa più importante. Invece l'hanno demonizzato negli anni. E adesso ci troviamo in questa situazione. Mm. Allora è chiaro che io non è che apprezzo Marchionne, ma io apprezzo il lavoro. E sarebbe assurdo se questo lavoro andasse via da Torino. Anche se non trovo che gli italiani sono gente di fabbrica, dovrebbero fare qualcosa di più interessante a questo punto. Comunque i sindacati non hanno aiutato lo sviluppo del lavoro. Parenzo, sei tornato o no? Parenzo? Sono pronto, ho ascoltato tutto. Sei qui? Ma stavi con un altro telefono? Che stavi? Eri in ascolto, no, prima con Secchi, no? Ero in ascolto. Vabbè, prima di tornare con Ubi Maior, beh, certo. Prima di tornare al calendario di Toscani, abbiamo cercato di far passare qualche minuto, così gli ascoltatori si abituavano all'idea di questo calendario del triangolo pubblico. Devo dire la verità che Toscani ha utilizzato un'espressione con cui mi trovo a mio agio, perché ero un po' perplesso. Come chiamiamo questo calendario? Il triangolo delle Bermude, ci sono i triangoli che vuol dire dare la precedenza. Insomma, è un triangolo interessante quello. Beh, su quello non ci sono dubbi, in assoluto quello parlo. No, mica per tutti. Mica per tutti, no, però è interessante per tutti, in ogni caso. Molte cose da dire, però la 7, i titoli ce l'abbiamo? Via. Berlusconi si schiera coi vertici Fiat, la Fiat fa bene a pensare all'addio se al referendum di Mirafiori vincono i no. La reazione di CGIL e PD è durissima, si vergogni, se ne va da lui, dicono la Camusso e anche Bersani. E mentre Torino si prepara al voto referendario sull'accordo, oggi ai cancelli di Mirafiori Nichi Vendola viene contestato dai militanti dei sindacati autonomi. Il governatore della Puglia dice gliel'ha ordinato la Fiat. E sul legittimo impedimento arriva il sì al referendum della Consulta. Se domani l'Alta Corte darà il via libera alla legittimità costituzionale del provvedimento, si aprirà la strada al voto popolare. Ma il piatto della bilancia, secondo molti, prende la parte del no. E comunque la decisione della Consulta non avrà influenze sul governo, dice Berlusconi, e attacca di nuovo i giudici. Sono la patologia della nostra democrazia. Che abbiano utilizzato lo scudo fiscale o no, oltre 2000 persone del nostro paese devono spiegare quei loro conti in Svizzera. Si tratta di un elenco lungo e non ancora completo. La lista di attrici, stilisti, imprenditori e sconosciuti con il conto oltrato. Guerra del pane, battaglia a Tunisi, sangue lungo le strade, solo oggi almeno 5 le vittime. Esercito nel centro della capitale mentre si fanno insistenti le voci su un colpo di Stato e scatta il coprifuoco notturno. Ti raserò l'aiuola quando ritorni da scuola. Allora, vabbè, la canzone, come sapete, caro Parenzo, è di Grignani. Ma c'è qualche allusione? Io non lo so, tira strada Iuola, c'è qualche allusione? Ma solo tu non capisci, solo tu non capisci. Cioè, ma solo io lo capisco, chiedo, sono ingenuo, non lo so. Vabbè, ho capito, ma è chiaro. Tiraterò la Iuola, ma può, sì, essere anche un giardiniere, no? Ma no, ma il riferimento che... in quella canzone di Grignani era evidente. Ti scandalizzi per questa cosa, Parenzo? Fai il bacchettone come la regione, no, la regione, il comune di Firenze, non so che altro, chi altro. Chi ma è che si è scandalizzato? Toscani, chi si è scandalizzato? Ma di solito si scandalizzano le vetero femministe, sempre un po' sinistroidi, no, sinistrate, perché sinistroidi. Sai, quelli che mettono quei maglioni pesanti, duri, che fa anche pungono, che si lascia crescere il pelo sotto le spalle. Ma non c'è più nessuno che mette, non c'è più nessuna donna che mette quel maglione là, o no? Ci sono ancora. Qui leggo Rosa Maria Di Giorgio, assessore all'istruzione del comune di Firenze, se non sbaglio. Poi ancora altri. Renzi che ha detto? Non gliene frega niente a Renzi. Renzi spero di avere le cose più importanti, insomma, delle priorità, insomma. Poi critiche da parte di Libero, l'inutile Oliviero Toscani, in un articolo di Massimo De Angelis. L'Oliviero Toscani di una volta non esiste più. Vabbè, allora, questa... bisogna dire a Massimo De Angelis che quelle foto lì sono quelle di una volta. Che ho riciclato, quindi vede, De Angelis non capisce mai niente, poverino. Fate scrivere su Libero. Vabbè, ho capito. Libero è un buon giornale adesso. Sì, è buonissimo. Senta Toscani, ma. Ma non ha ricevuto fondi pubblici, no, per farlo? No, che fondi pubblici? E allora chi se ne frega? Dov'è il problema? Sono tutte triangoli pubblici privati. La Carfagna ha protestato, però, eh? La Carfagna ha protestato perché è gelosa che lei non sia per quelle lì. Vabbè, questa è una battuta, no? Quello penso io. Avrei voluto farla ai tempi, invece ha trovato un sistema più veloce. Cioè? Non so, io facendo il calendario faccia lei i tempi. Ah, ho capito. Ma ha protestato mandando la questione al solito istituto. Allo IAP, sì. Allo IAP, di cui lei è molto amico, con cui ha molti rapporti. Io ringrazio tutti questi IAPisti, tutti questi qui, perché sono fantastici, questi qua del comune di Firenze. Vabbè, è chiaro che. Della gran pubblicità. Ah, su questo non c'è dubbio. Al triangolo pubblico, fra l'altro. Beh, no, la pubblicità è Oliviero Toscani, che poi. No, al triangolo pubblico. Ma lei dove le conservava queste foto? Ma le conservavo. Nei suoi archivi. All'archivio. Sono una cosa ma un po'. Continua a farle? Ma, sì. Ma le persone si presentano, mi spieghi un po'. Me lo spieghi dopo la pubblicità, Pubblicità. Evviva la visione della figlia da vicino. La visione della figlia da vicino. La visione della figlia. Vabbè. Sorvoliamo. 20:15. Questa è più chiara, Parenzo? Carissima. Questa è più chiara, prima sembrava criptica alle tue orecchie. La no, ora l'ho capita perfettamente. La canzone di Grignani. Invece questa mi sembra esplicita. Di questo stiamo parlando, di un calendario che suscita scalpore, discussione, eccetera, da parte di Oliviero Toscani. L'abbinamento dei mesi col triangolo pubblico, come ha funzionato, Toscani? Ma così distinto, l'arte si fa distinto. C'è una pochettino più abbronzata d'estate, una bianca candida per Natale, insomma. Comunque sono vecchie fotografie che ho iniziato a fare tanti anni fa. Devo dire, nel 93, sì, io feci alla Biennale di Venezia, sì, Achille Bonito Oliva, che allora curava Biennale di Venezia, la Biennale era fantastica, è stata una delle più belle, fra l'altro. Sì. Mi diede uno spazio... Che io tappezzai, sì, di 260 sessi, sia maschili che femminili. E lì cominciai a fare questi ritratti di questa parte del corpo. Ma all'epoca 93, già... Crociani, lei aveva i pantaloni corti. 93. E nel 93 ci furono polemiche. Ma insomma, era la Biennale, allora si può fare, capisce? La Biennale, l'arte va bene, ma queste qua sono cose proprio della nonna, no? Allora, niente, ho rimesso insieme 12 fotografie divertenti di, sì, questo triangolo pubblico, proprio che si guarda all'altezza di un bambino, di un figlio di una donna, proprio, no? Proprio per smitizzare tutte queste menate. E invece, ragazzi, che traffico. Sì, grandi polemiche. Polemiche. La Carfagna, il comune di Firenze. Sono ingenue queste foto, fatte apposta. Proprio il contrario della provocazione. Sono fotografate come una fototessera, proprio. Peggio dei calendari da camionisti. Qualcuno ha detto peggio dei calendari da camionisti. Ma no, calendari e camionisti sono proprio il contrario. Vabbè, poi non c'è niente di male. Non ci sarebbe niente. Discinte cose fantastiche anche quelle, però le mie sono l'opposto. Ma qualcuno vuole bloccare la presentazione di questo calendario domani? No, magari, dice lei, no? Cioè, magari lo facessero. Magari lo facessero. Altra pubblicità. Ma no, pubblicità è questo qui. Allora, l'arte moderna è la comunicazione, no? In un certo senso. Bisogna fare le cose giuste al momento giusto e interessare la gente. Ci sono persino le vetero femministe che si sono svegliate, finalmente hanno ancora qualcosa da dire. Ma vi ricordate quando c'erano le dimostrazioni delle femministe che mettevano il pollice e l'indice insieme e lo alzavano verso il cielo? Che forma era quella? È il triangolo pubico. Triangolo pubico. Se uno lo fa vedere veramente non va più bene. Ma adesso non esistono più le femministe, non mi ricordo nemmeno chi ha parlato, qualche associazione, così, le femministe fiorentine, ma non esistono. No, l'inizio c'è tutta una serie di associazioni. Se non ci fossero bisognerebbe inventarle, però scusa. Si eccitano tutte, mamma mia. Senta, ma è abbinato il nome anche, lei si ricorda il nome di queste persone? Delle cose private. No, ma lei ha messo un nome, lei ha un nome dietro questi triangoli pubblici. Beh, logico, ma lo so solamente io che sono come un medico. No, ma io mica volevo fare rivelare i nomi, per carità, ma c'è qualche persona famosa anche, no? Ma vede, lì siamo tutti uguali. No, questo non c'è dubbio, più o meno, più o meno. Beh, più o meno c'è qualche differenza, c'è sempre. Lì proprio non ci sono le differenze. Beh, guardi che a livello di gusti poi di classe, di censo, ma neanche estetico, sono tutte belle. Beh, insomma, a livello estetico qualche differenza c'è, insomma. Adesso non scendiamo nei particolari perché poi c'è chi ha di più e chi ha di meno. C'è chi ha di più, c'è chi ha di meno. Solamente quella parte lì è apprezzabile. C'è tutto il controsenso attorno che tante volte è difficile da gestire. Però, voglio dire, c'è qualche persona famosa tra queste 12 che lei ha scelto? Famosissime. Adesso lei sta scherzando, davvero, famosissime in che senso? Fuori nome, che se non posso dire, dico famosissime, vuol dire famosissime. Ma attrici, modelle... È logico. Attrici, modelle famose, vabbè. E anche ragazze normali. Traffico, non si arrabbi, traffico. Poi torno perché c'è un'ascoltatrice della provincia di Siena che da quello che mi annunciano è invece favorevole a questa sua iniziativa. Vuole farle complimenti. Un attimo solo, 800 24 00 24. Le zanzare di casa. Allora Marco da Mestre ci scrive: Toscani è passato dalla pubblicità alla pubblicità, che non è male. Il titolo del calendario, altri ascoltatori, potrebbe essere Il mio angolo di cielo è un triangolo di pelo, vabbè, non esageriamo. Qualcuno dice: chi fa queste foto ha problemi sessuali, vabbè, insomma, qui c'è naturalmente uno sfogatoio assoluto di... Ho ricevuto Severino Salvemini, lo conosce? No, chi è? Professore Alla Bocconi. Non so chi sia. Grande Toscani, calendario di qualità. Poi Alla Bocconi. Però no, non mi dica solamente gli elogi, mi dica una critica che ha ricevuto però. Qualcuno le ha scritto anche amici, conoscenti. O fantastico o sei una roba. Un porco, un maiale, che le hanno detto? Ma no, ma di più, senza morale. Senza perché morale. C'è un fondo di morale, di moralismo su queste cose. Insomma, ci sono delle parti, quelli che dicono: ma perché non è fotografato il pisello umano? Nel 93 fece alla Biennale di Venezia, fece una grande cappella, si chiamava. No, fermo, come una grande cappella? La grande cappella dove c'erano 260 sessi. Ah, ho capito, ecco. E una signora entrò e disse: oh mio Dio, ce ne sono quattro che non conosco. Ho capito. Giuro, era fantastico, una signora inglese era. Ma anche quella è una battuta, quella è una battuta, su, è chiaro. Logico. Fantastica. Susi, provincia di Siena, buonasera. Sì, buonasera. buonasera, buonasera a tutti. Dica. Allora, niente, io volevo innanzitutto fare i complimenti a Toscani perché veramente lo trovo come sempre un provocatore intelligente. E trovo che questo calendario, al di là di questi moralismi che hanno veramente stancato, lui come sempre è geniale e onesto intellettualmente. Non lo trovo irrispettoso per le donne, anzi lo trovo che l'argomento è trattato in maniera anche pudica, voglio dire, per come è presentato questo calendario. Non l'ho visto, però da quello che viene detto in questo momento basta andare su internet, guarda tutto. Ecco, esatto, se potessi adesso quando vado a casa, perché sono in viaggio, sarà la prima cosa che faccio proprio da donna. La Carfagna, mi dispiace, probabilmente, non lo so, per lei forse come me ha un'età che non ci possiamo più permettere di essere fotografate. Signora, tutte bene andate. Non ho capito. Non è vero, la foto, quel genere di ritratto va bene qualsiasi età. Sempre, va bene, va. Infatti poteva essere interessante, Oliviero, magari farne un altro dai 50 in su, perché così si dà. Ma no, più. Mai mettere un limite d'età per queste cose, sarebbe un errore. Qualcuna magari non sarà proprio naturale, perché io quel triangolo pubico non ha passaporto e non chiede passaporto. Ecco, bene, questa mi sembra una ottima risposta. Io comunque non le voglio rubare troppo tempo alla trasmissione. Susi, grazie. Ecco, una cosa. Che è successo? Niente, una cosa non la può dire perché è caduto. Allora, perché è caduto. Ci sono queste critiche e ci sono, c'è l'opposto, quindi va benissimo. Va tutto bene. Proprio io non sono qui a ricercare il consenso è la cosa più idiota che ci sia. Perché? Solamente quelli della televisione vogliono il consenso, ai politici. No, ma perché noi poi le telefonate arrivano casualmente. Toscani, buona serata. Bene, al prossimo calendario. Abbracci. Arrivederci. 20 e 25, 800 24 00 24. Maria Pasquale, canzone, via, parti. Sto facendo un bel vestito, due scarpe, due spigno, pulito, una parrucca, tutta preparata. Sta continuando a cantare, Parenzo, sta continuando a cantare da prima, secondo me. È una cosa pazzesca, fermatelo. Eccomi. Pasquale, sì. Com'era la prima che ci stava cantando? La prima, però. Era De Maggio. Vada. È un capolavoro assoluto. Vada. Era da maggio e sta cade a nantina, a schiocca di serata rossa. Crescerà l'aria e tutto luciardina, atturata da rossa cinta pazza. In diretta da casa sua, Pasquale da Napoli. Marco da Reggio Calabria, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Volevo essere molto breve perché mi sono seguito l'intervento di Donati all'inizio del collegamento. Sì. E parlava del problema della Fiat, degli operai. Mi dispiace sempre sentire delle persone che a volte cercano di capire, certo prendono 1200 euro al mese gli operai, sono indecisi su quello che debbono fare, ma in un'Italia dove mi sembra che il ministro delle finanze Tremonti ha detto che la crisi non è finita, giusto? Ci sono queste persone che prendono uno stipendio da fame, che non riescono ad arrivare a fine mese, vogliono peggiorare la situazione, cioè, se gli si presenta ai dipendenti, c'è una condizione peggiorativa delle condizioni di lavoro, devono lavorare di più, ma dico io per televisione non ho sentito che a queste stesse persone dice va bene, lavorerete di più, vi daremo 300 euro in più nella busta paga. Cioè, probabilmente queste persone potrebbero iniziare, dice beh, lavoriamo di più, avremo qualche cosa in più da spendere. No, forse non ha capito che l'alternativa Cruciani, ho capito bene che questa situazione di minaccia, questa è una minaccia, perché non è che si chiama in alcune altre parole, ma a fronte di questa situazione degli operai c'è l'amministratore delegato Marchionne, almeno quando dicono i dati, in tasca 40 milioni di euro l'anno. Ma dico io, un amministratore delegato che percepisce, non è che voglio dire sì, ma lei fa il calcolo anche delle stock options, non dello stipendio di Marchionne. No, ma dico io, poi ma se noi vogliamo contestare il fatto che l'esistenza delle stock options, questo tipo di retribuzione qui, è un altro discorso. Possiamo contestarlo dicendo Cruciani, io non voglio mettere di che parliamo, se no. No, dico semplicemente una persona che percepisce. Sì, ma Marchionne crea ricchezza anche, non è che sta lì a, così a percepire lo stipendio da parassita. Scusa, la ricchezza non la sta creando per gli operai, la sta creando ma chi? Ma non è per... vero, ma anche questa ma cosa come qui. Non è vero, se ci sono no, allora che fanno... gli stipendi, scusi, sulla dinamica degli stipendi degli operai, non è che Marchionne può fare più di tanto, cioè sono dinamiche che vanno avanti da anni, non è che si possono dare gli aumenti a tutti gli operai, scusa, come dice lei, 300-400 euro di più, non funziona così. Cioè, ma non funziona così, no, non funziona così. Euro a Marchionne sì, gli si danno perché... Vabbè, insomma, lei si scandalizza per il fatto che Marchionne guadagna tanto, è un argomento di cui si può discutere, perché ci sono gli autorevoli economisti in questi giorni che hanno detto... No, ma io ho precisato, Cristiani, non mi chiudo un attimo, cioè non è che mi dà fastidio che guadagni 40 milioni, ma una persona che guadagna 40 milioni gli si danno perché ha portato l'azienda a dei livelli dove c'è il benessere per tutti. Ma il benessere mi sembra che per tutti qua non ci sta. Ma no, ci ma sta non è questione... soltanto per pochissimi della Fiat, mentre per la maggioranza dei dipendenti, che sono migliaia in Italia, ci sta la fame. C'è la fame. Marco, ho capito la sua posizione, diciamo, non è proprio così la situazione, la fotografia non è proprio questa, in un'azienda che comunque ha dovuto ristrutturarsi, è in difficoltà, sta attraversando una crisi da diverso tempo, sta cercando di riprendersi, c'erano stati dati positivi, adesso la situazione è un po' diversa, c'è la questione della Chrysler, sono questioni molto complicate, non è che si possono ridurre come fa lei, i manager stanno bene, la maggior parte degli operai della Fiat sta sul lastrico, non è proprio così. C'è la borsa 800240024, torniamo dopo sempre con gli ascoltatori. Le zanzare di casa mia si nutrono di me. Siamo qui 20:33 800240024. Parenzo, allora, eccoci. Massimo Calearo, ospite questa sera al Titanic Italia. Titanic, come si dice? Titanic, come dici? Titanic, l'italiana. Italia su 7 gol di seconda serata, perché c'è la partita dell'Inter alle 21. Così si pronuncia sugli operai Fiom. La Fiom dobbiamo trasferirla in Cina. Devono fare in modo che gli operai cinesi abbiano gli stessi diritti degli italiani. Allora diremo, è in Cina che ci fa la concorrenza, che sono tutti comunisti, però lavorano 30 ore e prendono 100 euro. Ma dai, no, che cazzo. Dobbiamo trasferire l'innovazione. La Fiom da trasferire in Cina è... Potrebbe spiegare i cinesi come fa crescere i dipendenti e avere maggiore diritti. Ve la cuccate qua, la Fiom. Passioni e vani. Chi era che diceva ve la cuccate qua? Rizzo, l'onorevole Marco, ex onorevole Marco Rizzo. Ve la cuccate qua la Fiom. Ve la cuccate qua la Fiom, duri e puri, padroni. Ah, poi ha rivendicato anche il fatto che lui si chiama padrone, quello bellissimo. Calearo, beh certo. Perché? No, non sono un imprenditore, sono un padrone io. Ma come un padrone? Un padrone. Che deve essere? Giusto che lo rivendichi. Perché la parola non è appropriata, la parola padrone non è appropriata, non ho capito. No, mi sono un po' stupito perché la parola padrone risale un po' all'Ottocento, inizio il Novecento, il padrone. Il padrone. Cioè... No, ma il padrone però non ti dà diritti, no? Cioè l'imprenditore è quello ti dà diritti di indirizzare gli investimenti, no, in un certo modo, la sudditanza, no? Ah, l'idea ti dà l'idea della sudditanza, dici. Mi dico, beh, un po' sì, il patrone della feriera, no? Sì, era questa l'espressione. Sentiamo Mariella da Trieste, 800240024. Mariella, buonasera. Buonasera da Trieste, la città dei colibrì. La no? città dei colibrì. Lei si interessa dei colibrì, signora Mariella? Non so così tempo che aspetto, oramai il mio orecchio si è proprio, anzi, incendiato, direi. Senta Mariella, ma lei questa, i colibrì li va a visitare? È andata qualche volta a visitarli? Sì, una volta sola, però i colibrì sono sempre uccellini che fanno una certa tenerezza, anche se sono così belli, colorati, insomma. Vabbè, so che a Parenzo questi discorsi non piacciono. Dovrebbero restare a Trieste, sì. Mariella, dovrebbero rimanere. Lei è contenta se restano a Trieste questi colibrì? Per me, guardi, non quello che niente. Concerne tutto l'ambiente naturale, io dico la verità, sono molto favorevole a tutto quello che c'è nella natura, dopodiché sa, gli uomini stanno devastando il mondo, ma insomma non ha importanza, cioè vabbè. Ha importanza, ma lo fanno lo stesso, perciò io non è che possa fare, nel mio piccolo cerco sempre di fare qualcosa, almeno dal punto di vista ecologico, sto molto attenta alla... non so, quando uno va a buttare la spazzatura e quelle cose là, ma non vorrei parlare di questo, che è molto importante. E di che vuole parlare? Io volevo parlare di un'altra cosa, e mi veniva in mente a proposito di tutte le polemiche della Fiat, che un anno e mezzo fa, insomma, quando c'era la campagna elettorale, lei si ricorda la vicenda Alitalia, che all'Alitalia era quotata in borsa e il Premier tutti i giorni con le sue dichiarazioni, il titolo si scendeva e si alzava, così secondo le dichiarazioni del Premier. Che poi c'era quella storia che doveva essere italiana a tutti i costi, sì. E tutta quella storia là. Poi naturalmente gli azionisti e i piccoli risparmiatori hanno perso tutto e in più siamo stati bastonati due volte in quanto che lo Stato italiano ha dato 300 milioni di euro all'Alitalia. Voglio dire, tutta questa battaglia che è stata fatta e poi che cosa abbiamo visto? È questo che vorrei dire, certi annunci certe volte potrebbero o si tace sempre o si parla sempre, ecco, volevo sapere questo da voi. Sì, diciamo che i due casi sono un po' diversi, eh. Cioè, da una parte c'è un'azienda statale, da quest'altra c'è un'azienda che ha avuto certamente grandi aiuti dallo Stato nel passato, ma è un'azienda poi privata, che è la Fiat. No, ha ragione la signora di Trieste. Su che cosa? 101%. Su che cosa ha ragione? C'è niente da aggiungere, ha ragione. L'operazione vergognosa di salvataggio dell'Alitalia per difendere l'italianità, questa è la motivazione. Vabbè, ma adesso, no? L'Alitalia che c'entra con la Fiat, scusami. E non c'è italiani, e invece ora siamo di fronte a un capo dello Stato, a un premier, a un capo del governo, sì. Che dice davanti alla signora Merkel che fa bene Marchionne ad andare via. Cioè, no, non dice questo, ha detto se vincono i no, l'azienda fa bene a prendere in considerazione altre strade. Bravo, bella difesa dell'industria. Ci sono italiana, motivi bravo. Per andarsene. Bella ci sono pubblicità che fa il nostro paese. Ma queste bravo. Sono stupidaggini, sono stronzate, sono stronzate. Fatelo dire da me, sono stronzate queste qua. Ha fotografato, come diceva Mario Secchi, prima ha fotografato la situazione. Vabbè, è questo. Mario Secchi, bravo direttore, lo saluto, lo ringrazio perché mi ha offerto anche l'aperitivo. Ma dissento radicalmente da questa cosa. Non sta difendendo l'italianità. Ma non deve difendere l'italianità della Fiat, cosa c'entra l'italianità della Fiat? No, le industrie italiane. Non è che smette di essere italiana se l'investimento viene fatto da un'altra parte, se il cervello resta a Torino. Ma che pubblicità fa a chi vuole investire nel nostro paese? È il capo del governo. Ma di cosa stiamo parlando? È il capo del governo. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Ha fotografato la situazione. Che cosa stai dicendo? Cioè, fammi far Cacciari sarebbe infuriato. Perché? Perché? Vabbè, dopo casomai lo chiamiamo, vediamo di rintracciare il telefono. Ruggero, dovevamo sentire Ruggero sulla vicenda del calendario, mi è venuto in mente dopo. Già, è vero, Ruggero sulla vicenda del tradizionalista sul calendario, sì, sul pub. Magari lo chiamiamo al volo, un parere così moderato sul calendario di Toscani. Vabbè, vediamo, magari è tardi. Vediamo che succede, non si sa. Lilo da Torino, Lilo o Lillo? Lillo da Torino. Chi è che ha scritto Lilo vabbè. Sbagliati, Lillo. Buonasera signor Lillo, dica. Io sono un operaio Fiat, in questo momento sono a Mirafiori, dentro Mirafiori. Oh, benissimo. Ho approfittato di una pausa per dire anche la mia, se possibile. Prego, prego, dica pure. Quello che sta avvenendo. Dove lavora? In che settore lavora lei a Mirafiori? Al montaggio. Montaggio, catena di montaggio, proprio. Non sono in cabina, sono in manutenzione. Sì. Però sono sulle linee di montaggio, ecco, sì. Sull'assemblaggio. Lei è iscritto a un sindacato? Io sono iscritto in sindacato e sono di quelli che ci hanno invitato a votare sì. E sono d'accordo da votare sì, onestamente, perché ho visto, guardi, persone da tutta Italia venire qua a dire la propria e a voler decidere sul futuro dei lavoratori, non dello stabilimento solamente, ma dei lavoratori. Io quando sono entrato 24 anni fa in Fiat si facevano i tre turni, lavoravamo, avevamo un salario che non era granché, però era dignitoso. Quando invece non c'è stata più produzione, lavoravamo di meno, siamo ritornati i due turni, si guadagnava molto meno, abbiamo dovuto abituarci, adeguarci. Certo, come logico che sia. E oggi invece facciamo cassa integrazione. È paradossale che un investimento che ci fa ritornare a produrre, no, in Italia ci sia un fronte che dica di no, è il futuro per me, io penso, per noi lavoratori. Ecco, lei si sente, scusi Lillo, lei è stato molto chiaro, si sente sotto ricatto lei per questo? Perché no, qualcuno dice quando Marchionne sostiene o c'è il sì o ce ne andiamo, questo è la pistola puntata sulla tempia dei lavoratori, è così? Assolutamente no. Vede, Marchionne avrà i suoi modi e mi può stare pure antipatico per i modi che ha, no? Sì. Però io che sto facendo cassa integrazione, che ho fatto i due turni e non i tre, che non ho il salario come lo vorrei, e questa per me è un'opportunità, è un treno, e quindi non lo sento come ricatto, non ne sta ledendo più di tanto. Se la contropartita sono i 10 minuti di pausa, abbia pazienza, 10 minuti valgono bene il lavoro per altri 20 anni, perché io voglio andarci in pensione in questa fabbrica. Ho capito. E mi auguro che anche i miei figli possano avere una speranza di lavorare in questa fabbrica. Senta Lillo, lei vede questo contratto come un contratto più, molto più oneroso rispetto a quello precedente, in cui lei lavorerà di più, con un contratto più duro, addirittura qualcuno parla di diritti calpestati, oppure no? Ma dove sono i diritti? Non c'è nessuno che mi venga a dire, che mi ha dato risposto ai diritti calpestati sull'incostituzionalità. Ma le pare che se è veramente incostituzionale, il garante della nostra Costituzione, che è Napolitano, non sarebbe già intervenuto? Sul diritto di sciopero che ne pensa, sulla questione della... Sul diritto di sciopero, se ha 2 secondi da dedicarmi, gli dico il perché non si può scioperare sui sabati firmati a lavorare, quelli obbligatori. Perché alcune organizzazioni del no, ovviamente, sì, fanno gli scioperi, indicano gli scioperi preventivi. Da qui al 2014 scioperi degli straordinari. Sì. E quindi se li abbiamo firmati, perché anche loro li hanno firmati, di fare sto sabato, perché indire uno sciopero? Se c'è l'opportunità di lavorare, se c'è una richiesta di mercato, perché non lavorare? Dunque la proibizione dello sciopero è solamente sugli straordinari? È solo sugli straordinari. I sabati straordinari, ma il sabato straordinario, le dirò di più perché non lo dicono, se c'è un problema sulla linea che non va, si può scioperare. Sì, no, certo, certo. Se quel sabato che lavoriamo, straordinario, obbligatorio, sì, c'è un problema sulla linea, come fai a non scioperare? Certo, in alcuni casi si può scioperare, ci sono delle deroghe, certo, a questo divieto. Questo è una risposta a Flores dal Caisi di ieri sera, abbiamo aspettato un po' a darla perché non ce ne frega niente di rispondere subito, eccetera, però insomma, Flores dal Caisi, senti la voce anche degli operai quando parli della incostituzionalità di alcune norme previste da questo contratto, da questo accordo di Mirafiori. Senta Lillo, ma la situazione com'è lì? Tesa oppure gli operai, guarda, vanno a votare tranquilli? No, è tesa. Noi subiamo tutto quello che c'è fuori. Non siamo abituati a tutti questi media, a tutte queste pressioni fuori. Non siamo abituati. C'è chi ci vuole tirare da una giacchetta e c'è chi ci vuole tirare dall'altra, no? Ma soprattutto le persone che non sono di Fiat, non lavorano con noi, fanno altro. Ci sono politici che arrivano dalla Puglia a venirci a dire cosa dobbiamo fare, che siano di là. Cioè, lei si rivolge a Bendola, però mi faccio dire una cosa, Lillo, per carità, sarà pure inusuale il fatto che il presidente della regione Puglia vada davanti ai cancelli di Mirafiori, come è inusuale magari che ci sono politici che dovrebbero occuparsi della propria città, che si spendono ogni giorno su qualsiasi tema, per carità, però Bendola ha tutto il diritto di fare quello che vuole, di andare davanti ai cancelli di Mirafiori a parlare, a dire la sua, a interloquire, se vogliamo usare questo termine orrendo, con gli operai, o no? Sì, no, non è così, mi spiace, guardi che io sto scegliendo della mia vita, della mia, non della sua, della mia vita. Io devo scegliere se poter vivere, sopravvivere, lavorare in maniera dignitosa o no. Ho capito. Lui mi deve venire a dire quello che devo fare. No, vabbè, lui dice la sua, lei può lei scusi un attimo. Di quello che devo votare io. No, Lillo, ho capito. Insomma, Vendola va là, lei può ascoltarlo o non ascoltarlo. Insomma, è ovvio, certo. Però insultarlo, certo, mi sembra che sia un errore. No, no? Come no, io non l'ho mai insultato. Mi guardo bene dall'insultare. Ma oggi chi l'ha insultato? Oggi chi l'ha insultato? Non l'hanno insultato. Beh, come l'hanno contestato. Contestato, anche insultato. No, l'insulto è una cosa, la contestazione è un'altra cosa. Vabbè, adesso non mi ricordo esattamente le parole utilizzate, ma mi sembravano pesanti nei suoi confronti. Gli ha detto che usa il metodo Marchionne in Puglia, torna in Puglia. Cosa no, si è voluto fare? Non è un insulto. No, vabbè, era un titolo. Hanno ripreso un titolo sul giornale, ma forse non sarà stato un insulto. Comunque non è stato trattato bene, diciamo, no? Beh, ovvio. Ma non è ovvio, Lillo. Io sono convinto, mi scusi, per carità, io le do ragione al 100% su tutte le cose che ha detto. Sono d'accordo con lei, per carità, però lei non mi può contestare il fatto che Bendola non si può presentare davanti ai cancelli di Mirafiori per dire la sua. Lui ha tutto il diritto di presentarsi davanti ai cancelli di Mirafiori e dire la sua, o no? No, non può, come può dire quello che vuole, ma non mi può dire quello che devo votare. Ma no, ma poi lei può, scusi, poi lei può, se ha la sua... Le dico, posso dire una cosa? Sì. c'è stato prima del nostro, l'ha vissuta, ahimè, ai loro anche, questa esperienza a Pomigliano. Sì. No? E io sapevo che se passava da Pomigliano poteva venire da noi molto facilmente, così come è stato, no? Non mi sono mai permesso di dire sì o no su Pomigliano cosa dovevano fare. Io che sono un lavoratore avrei risentito di quell'accordo perché non sapevo i lavoratori, le persone, soprattutto le famiglie, come stessero vivendo. Senta, il suo turno è che ora finisce. Ci sono dei drammi e io non posso permettermi di andare lì e dire no, tu vota sì o tu vota no, perché ci sono dei drammi che io non conosco, non mi permetto, rispetto la dignità di quelle persone. Ma comunque, secondo me Vendola fa il suo lavoro. Senta, Lillo, a che ora finisce il suo turno lei? Alle 10. Alle 22. Sì. Va bene, la ringrazio molto per questo intervento. Grazie a lei per buon lavoro, auguri per tutto. Marchionne intanto da Detroit parla, ai lavoratori di Mirafiori dico di avere fiducia nel futuro e in loro stessi, niente altro. Toni un po' diversi naturalmente, il giorno prima del referendum. Mi piacerebbe tanto avere con Landini lo stesso rapporto che ho con Bob King, dice Marchionne, che è il presidente del sindacato americano UAW all'uscita dell'hotel MGM di Detroit. Mi piacerebbe davvero, perché bisognerebbe condividere il futuro con le parti sociali, noi ci abbiamo provato. Dunque Marchionne vorrebbe avere con la FIOM lo stesso rapporto che ha con il principale sindacato americano. Traffico, torniamo subito. Le zanzare di casa mia si nutrono di me. Eccoci qui, Pasquale. Bada. Sono. Vada. Ancora? Parta sempre lei quando la chiamo. Cos'è questa? Scusami. Sì. Ma me la fa dire una cosa? Ah, un attimo. Buffissima. Un attimo, Vittorio, sì. Vittorio da Milano, buonasera. Buonasera. Dica. Niente, faccio una premessa, io faccio il direttore commerciale in una media azienda e quindi conosco bene i problemi del lavoro per allacciarmi un po' al discorso di Marchionne di Fiat. Sì. Allora, fermo restando che sono d'accordo che la Costituzione credo c'entri poco, i diritti dei lavoratori mi sembra che non siano stati ridotti. Casomai io farei un discorso molto diverso se fossi nei sindacati, negli operai, cioè, avrei preteso magari qualcosa di più in busta, ho detto ok, mi togliete qualche diritto, mi togliete qualche cosa, pagatemi un po' di più. Ma c'è, guarda che sono previsti degli aumenti in busta paga. Sì, ho visto che sono gli aumenti, sono delle briciole, sono 30-40 e 30-40. Ho capito, briciole. Secondo lei gli aumenti sì, in Italia, gli aumenti collettivi non è che possono essere di 300 euro a busta paga. È chiaro. Il problema invece secondo me è il seguente, io lei un consiglio le vorrei dare perché l'ho sentito fare così un po' di sarcasmo, un po' di spirito, io sono in un'area lì della Valle Seriana dove c'è il tessile, Val Seriana, Val Brembana, tutta la zona di Bergamo e la inviterei una volta ad andare su quei piazzali lì dove ci sono dei padri di famiglia con il mutuo da pagare, con un stipendio da 1200 euro e che non hanno più la certezza del lavoro. Secondo me hanno un po' ragione di essere un po' arrabbiati. Quindi, arrabbiati con che cosa, mi scusi? Col sistema. Che significa col sistema? Qui si sta parlando di un'altra cosa, si sta parlando di qualcuno che vuole dare lavoro, che non vuole chiudere una fabbrica, vuole dare lavoro, secondo regole diverse. Qui di questo si sta parlando. No, ok, sul caso specifico posso essere d'accordo con lei. Altrimenti... Invece sul generale però, se mi fa dire una parola... Ma il generale quale? Qual è il generale? Non capisco qual è il generale. Allora, oggi se uno apre i giornali o domani apre i giornali, vedrà che ci sono... 6.000 italiani o 600 italiani, non mi ricordo più, che sono la punta dell'iceberg, che hanno sicuramente hanno portato i soldi in Svizzera, che hanno rubato, che hanno evaso le tasse. Sì, d'accordo. Questo è un paese di ladri, di evasori fiscali. Gli operai, se leggessero i giornali e si occupassero di queste cose qui, se io se fossi un operaio sarei disposto a scendere in strada, in piazza con i forconi, non a protestare con i pomodori, le dico veramente, però mi scusi Vittorio, abbiamo una piccola media azienda cose che facciamo fatica, voglio dire, a far quadrare i conti, poi si leggono di queste cose qui che io non lo so. La famosa lista Falciani, caro Parenzo, l'ha letta stamattina la questione della lista Falciani? Sì, non mi interessa, non ha trovato il mio gradimento, però è interessante, no? Cioè uno spaccato del nostro paese. Sì, ma insomma non mi stupisce più di tanto. Domani se ne parlerà, credo, con Oscar Giannino nella trasmissione. Beh, lo seguiremo, ma è interessante. Nella trasmissione delle 9 per capire anche qual è la. No, credo no, nella trasmissione di Oscar, nella trasmissione di Alessandro Milan domani mattina alle 8:30, nel sondaggio di Radio 24 sulla lista Falciani. Vabbè, Vittorio, lei dice le persone che quelli che lavorano quando leggono i giornali la mattina, quando sentono televisione e radio e scoprono che ci sono gli evasori fiscali, dovrebbero scendere in piazza con i forconi. Vabbè, insomma, un vecchio argomento. C'ha ragione. Sì, sì, vabbè, ma d'accordo. Certo, voglio dire, dopodiché alla fine le crisi le pagano sempre i poveri cristi, e le dico che io parlo da un'altra posizione. Sì, no, ma ho capito benissimo quello che dice lei. Diciamo che resta una critica così, cioè poi uno dovrebbe dire com'è che si combatte l'evasione fiscale, eccetera, eccetera. Però è bello questo spaccato, perché chi ti ha chiamato è dall'altra parte della barricata, cioè non è un operaio, è un dirigente di un'impresa. Certo, certo, non c'è dubbio. E quindi dice, ma come, cazzo, io pago tutto, c'ho questi... Ho capito, però vedi, scusami. Ma è prima... bravo, perché capisce... Vede la complessità del problema, non dice siccome io sono un padrone me ne fotto di quello che a parte che non è un padrone ma fa il manager, non credo che sia sto estremizzando apposta, però voglio dire, mi piace questo modo di ragionare, perché ne vede la complessità. Sì. Non è che ci A e B, no, siamo però, in un sistema. Però scusami, l'ascoltatore di prima che ha chiamato dalla catena di montaggio della Fiat non è che se l'è presa con l'universo mondo, non è che se l'è presa con gli evasori fiscali, non è che se l'è presa con la politica che non decide. Ha fatto un ragionamento che riguarda il suo contingente, la sua fabbrica, il suo destino, punto. Poi non è che ha detto il mondo è infame, ci sono gli evasori fiscali, ci sono i politici ladri, ci sono quelli che non fanno niente, eccetera, ci sono i dipendenti pubblici, eccetera. Altrimenti diventa una sorta di... Il suo mondo oggi, il suo problema è quello oggi di difendere quel posto di lavoro. Lo capisco e posso anche apprezzare il suo voto. Sì, ma capisci, l'indignazione contro tutto, contro quello che non va, i forconi in piazza, è sterile, non serve a nulla, non serve a nulla, bisogna darsi da fare per quello che possiamo contare singolarmente, punto e basta. La corruzione, dire che ho capito, ma uno dentro di... Per quello che... Capisci che cosa voglio dire? L'indignazione così, pronunciata... senza poi che abbia un suo costrutto, senza la parte construence. Ma lui ha detto io capisco quegli operai che sono arrabbiati e che vanno in piazza quei forconi quando vedono quel tasso di evasione fiscale. Ho capito, ma è mettersi nei panni di un altro che è in un'altra condizione, ed è apprezzabile che lo faccia un uomo di impresa come tanti fanno. Va bene. Questo dico. Davide da Torino, buonasera. Sì, buonasera. Allora, ascoltavo per radio la notizia di Toscani del calendario, sì, però non ho ancora visto. Volevo solo dire che secondo me un calendario non è arte moderna assolutamente, ma è pubblicità spicciola che serve a chi lo fa. Più o meno. Vabbè, un calendario può essere anche, adesso non faccio queste distinzioni perché non può essere anche quello una forma di arte. Per tanti anni ci sono stati calendari che sono stati no, uno degli avvenimenti più importanti della comunicazione nel nostro paese. Non credo che in nessun museo di arte contemporanea serio si esponga un calendario. Vabbè, ma che c'entra questo? Da questo punto di vista anche mettersi le dita nel naso può essere arte moderna, secondo me non lo è. Poi vabbè, comunque adesso la distinzione su che cos'è arte moderna o meno francamente è poco interessante. Okay. Poi l'oggetto fotografato da Toscani secondo me è una provocazione bigotta che può accendere gli animi. In questo caso sono anch'io bigotto perché intervengo negativamente a giudicare il suo calendario. Un pubblico bigotto, vedi un po' la carfagna, quindi dimmi tutto, abbastanza sempliciotto. Cioè, perché una provocazione bigotta? Mi scusi, non ho capito la provocazione bigotta, il paradosso. Fotografare dei pubi in un calendario per cercare di catturare l'attenzione della gente, penso che sia abbastanza spicciolo. Però mi scusi, potrebbe... Davide, c'era il collegamento con la ditta che ha sponsorizzato questo, che è il consorzio della Vera Pelle della Toscana, dunque c'è un collegamento naturalmente artistico da questo punto di vista, e queste foto lui ce l'aveva da anni, non è che le ha fatte fare apposta, per cui gli è venuta l'idea appunto e basta, sapeva chiaramente di provocare, su questo non c'è il minimo dubbio, ma è il lavoro che ha fatto Toscana da tanti anni. Davide, la ringrazio, ma sono davvero in conclusione. Paolo da Pesaro, velocissimo Paolo. Buonasera, sì, dunque io vorrei sapere da lei, che è una persona del mestiere, sì, un giornalista, secondo lei che luce getta sul giornalismo italiano il fatto che ci siano dei telegiornali, sì, che riferendo della visita del Presidente del Consiglio a Berlino, sì, non abbiano speso una parola, dico una, su, che su cosa? Quello che pur deve aver detto con i suoi ospiti tedeschi. Invece parrebbe che sia andato a Berlino, abbia fatto un viaggio un po' lungo per parlare unicamente di, come si chiama, la cosa del legittimo impedimento, la Vabbè, ma quando si parla poi dei fatti interni è evidente che ci si concentra solo su quelli. Parenzo, ci sentiamo domani, 18.30, ciao! A domani, ciao! La Zanzara, il titolo più di merda del mondo, soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello, soltanto tu. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me la segni proprio, c'è una cosa, non vi preoccupare.